a nome del comitato promotore delle primarie do il benvenuto a tutti i presenti. Innanzitutto, tanto poi spegniamo perché questa prima fase. Vabbè, lasciamoci dopo. Deve essere illuminato. Grazie ormai. A nome del comitato promotore do il benvenuto a tutti voi che siete venuti questa sera, ovviamente ai quattro candidati che sono qui seduti e a Davide Cantoni, giornalista di TV Espansione, che ha dato la sua disponibilità questa sera a fare da moderatore. Solo due parole di introduzione molto brevi, perché i protagonisti di questa serata sono i candidati e ovviamente anche il pubblico che potrà poi rivolgere le domande. Cosa abbiamo pensato? Abbiamo pensato di organizzare come comitato di promotore quattro incontri. Uno, per la verità, ci è stato proposto ed è il terzo, che sarà il giorno 15 dall'Arci, sarà tutto al Cinema Gloria. Il comitato promotore ha accolto l'invito, la proposta dell'Arci, inserendo quindi questo incontro, che avrà anche una modalità un po' diversa dagli altri tre, all'interno di questo percorso di quattro incontri, che sono già stati pubblicizzati e speriamo di farlo anche godendo un po' anche da parte di un'attenzione da parte di mass media, approfitto perché c'è il giornalista, così lo dico, anche per i prossimi tre. Il perché di questi incontri? Uno, il primo obiettivo è quello di incontrare il territorio, prima ancora o anche insieme a quello di conoscere ovviamente i candidati. Incontrare il territorio, incontrare i cittadini che stanno sul territorio, per cui gli incontri sono pensati e progettati cercando, ovviamente non è possibile stare in tutte le parti della città, però di coprire un po' almeno quattro zone della città. Abbiamo anche pensato, magari sbagliando, ma comunque ci era sembrato opportuno, fare degli incontri tematici, anche se magari qualcuno dice ma era anche interessante sentire il parere di cittadini che stavano in quel pezzo di territorio. Questo non è escluso, per cui voglio dire, non stiamo proprio così rigidissimi sul tema nelle domande che eventualmente dovessero nascere. Però ci sembrava che focalizzare di volta in volta alcuni temi potesse servire a fare un po' più il punto, una chiarezza sulle proposte, le idee che vengono avanti. Quindi il primo obiettivo è incontrare i cittadini, il secondo obiettivo ovviamente è quello anche di conoscere i candidati, perché tutti ovviamente si riconoscono nella coalizione di centrosinistra, ma ciascuno porta la propria sensibilità, le proprie caratteristiche, la propria storia, quindi evidentemente ci sono delle diversità, altrimenti avremo un solo candidato, no? Terzo obiettivo, credo anche che attraverso il confronto delle idee, delle domande, delle risposte che verranno dai candidati, si arricchisca comunque il patrimonio comune, che lo sarà comune di tutti dopo il 27 novembre, in quanto da tante idee si potrà poi insieme fare un programma condiviso, tutti insieme, insieme al candidato che risulterà vincente. Detto questo, sulla serata di questa sera, questo primo incontro e anche il secondo e il quarto, per la verità, avranno, il terzo, quello organizzato dall'Arci, sarà un po' diverso, avranno questa struttura. Una prima parte, 15 minuti al massimo, ci stiamo Maurizio, in cui una persona, in questo caso Maurizio Ronchetti, che parlerà a nome anche di altre due persone che hanno fatto un lavoro sul tema negli scorsi mesi, lancerà un po' il tema che, come sapete, è quello dell'inquinamento, della difesa dell'ambiente. Noi abbiamo scritto anche mobilità, che forse non hanno affrontato in maniera compiuta, ma comunque rimane all'interno del tema di questa sera, lanciando un po' di provocazioni, alcuni dati, alcuni aspetti, alcune riflessioni, alcuni spunti che riguardano la città di Como. Questa è la prima parte, diciamo, introduttiva. Poi si passa alla parte vera e propria di dibattito con l'intervento dei candidati, e si svolgerà così. Ci sarà un primo giro, diciamo a ruota libera, 5 minuti al massimo ciascun candidato, che potrà dire sul tema, alla luce di quello che pensa lui, stimolato dalle riflessioni, dalle considerazioni che Maurizio ci presenterà, cosa pensa, quali sono i suoi obiettivi, le sue sensibilità sul tema. E poi apriremo il dibattito vero e proprio, che sarà appunto moderato da Davide Cantoni, come ho detto prima, che farà magari delle domande lui, raccoglierà anche degli interventi del pubblico, cercando ovviamente di sintetizzarli e di sottoporre i candidati, cercando di rispettare ovviamente, diciamo, la par condicio, quindi un rispetto di tempi da parte degli interventi da parte di tutti. Io ho finito e vi auguro buona serata. Buonasera, scusate per motivi di postazione, devo darvi le spalle. Allora, una breve introduzione sul tema che non è assolutamente esaustiva, i problemi ambientali sono infiniti, però qualche spunto per il dibattito a seguire. Parleremo un po' dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua, un po' del territorio. Sono delle tematiche interconnesse fra di loro e cercheremo di trovare qualche filo conduttore. Per quanto riguarda, partiamo da parlare dell'aria, qui c'è un elenco dei principali inquinanti, si tratta di sostanze gassose e dei famosi particolati, abbiamo il PM10, il PM2,5. La cosa importante da sottolineare è che sono tutti dei prodotti inquinanti che derivano per lo più da attività antropiche legate alla combustione di qualche cosa. Può essere la combustione del carburante delle auto, la combustione della legna e altre cose. E quindi anche quando andiamo a riscaldare la casa, per esempio col metano, produciamo comunque una sostanza inquinante. A livello di normativa, l'Italia è molto virtuosa e quindi in qualsiasi ambito, che sia l'inquinamento dell'aria, i problemi del territorio, l'inquinamento dell'acqua, ci sono tutta una serie di normative e di tutele molto appunto virtuose. Il problema poi è l'applicazione. Di fatto noi abbiamo delle direttive che arrivano direttamente dall'Europa e poi anche via via fino agli enti locali, tipo la Regione Lombardia, che per esempio nel supplemento del luglio 2010 decide di promuovere la ricerca e l'innovazione nel settore dell'energia e delle fonti rinnovabili, promuovere la mobilità sostenibile, certificare il consumo energetico degli edifici esistenti. Quindi avrete senz'altro sentito parlare che si parla di categoria energetica per quanto riguarda gli edifici e via via altre misure. Il problema però poi è cercare di mettere in atto le norme, e quindi qua per esempio proponiamo un primo spunto di riflessione. Qui abbiamo due grafici che si riferiscono a la rilevazione di quelli che sono i valori del PM10 in concentrazione media annua. Nel grafico in alto abbiamo gli anni e la concentrazione dell'inquinante. Possiamo vedere che la soglia dell'inquinante medio spalmato sull'anno in sostanza viene sforata per quanto riguarda la città di Milano e per quanto riguarda la città di Cuneo. E così anche se andiamo a guardare le soglie per quanto riguarda il numero massimo di giorni per cui questo inquinante deve essere presente nell'aria. Di fatto entrerà in vigore una nuova norma su spinta della Comunità Europea che prevederà un massimo di 7 giorni di superamento annuo della soglia dei 50 microgrammi per metro cubo. Durante l'anno 2010, che è stato un anno positivo dal punto di vista meteorologico, noi abbiamo avuto una media annua di 31 microgrammi metro cubo. Quindi sarà una sfida riuscire a ottemperare a questa nuova direttiva che viene dalla Comunità Europea. Ci sono anche una serie di studi che ci danno riscontro di come comunque sia possibile attuare dei comportamenti che possano abbassare in sostanza le soglie degli inquinanti nell'aria concretamente. E infatti in questo caso abbiamo citato un paio di studi, entrambi studi italiani. In questo caso c'è uno studio del Dipartimento di Medicina Preventiva del Policlinico di Milano che ha stimato il numero di morti nella città di Milano e poi ha esteso anche la cifra alla regione Lombardia legate al superamento del PM10 oltre la soglia dei 40 microgrammi per metro cubo. Tenendo come soglia i 40 microgrammi per metro cubo, abbiamo che in Lombardia ci sono 173 decessi riconducibili a questo sforamento. Se però andassimo a considerare una soglia più bassa e quindi 20 microgrammi metro cubo, vediamo che le morti imputabili in tutta la Lombardia salgono a 709 e in Milano 261. Quindi abbassare le soglie ha un valore preventivo e un valore di tutela. Chiaramente noi sappiamo che però spesso invece si va in deroga a quello che sono le direttive. Questo è un altro studio che avvalora quello che abbiamo accennato, ossia la restrizione del traffico. La restrizione del traffico veicolare incide pesantemente sulla qualità dell'aria in positivo. Infatti, in questo caso c'è stato uno studio, un buono studio italiano, che ha preso come parametro di riferimento non più il PM10, ma quello che viene chiamato black carbon, ossia, per intenderci, il nero fumo, la fuliggine, quindi i residui carboniosi incombusti. Questo parametro si è dimostrato più efficace per monitorare la concentrazione di inquinamento dovuto all'inquinamento veicolare. Quello è un omino che ha fatto un percorso all'interno della città di Milano con uno strumento per rilevare la concentrazione di black carbon. Si è visto che nelle zone pedonali e anche nelle zone regolate dall'Ecopass, quindi la cintura Ecopass di Milano, la concentrazione di black carbon è di molto inferiore rispetto alla zona a circolazione libera e quindi rispetto anche ai dati di tutela della salute che abbiamo citato prima, effettivamente la restrizione del traffico funziona. Qui c'è un'immagine che fa vedere in sostanza le particelle di carbonio incombusto, il black carbon, all'interno dell'espettorato di alcuni bambini. E quindi diciamo è attendibile il parametro per lo studio. Quali provvedimenti possiamo prendere a costo zero? Per esempio chiudere le porte dei negozi, che invece per attirare i clienti vengono tenute aperte e quindi c'è un maggior consumo di riscaldamento, di energia. Controllare la temperatura degli edifici pubblici, anche qui c'è abbastanza caldo stasera. Controllare le zone di accesso con ZTL, incentivare le piste ciclabili, le aree a traffico limitato e nel caso di Como si potrebbe pensare a un accordo per esempio con le Ferrovie Nord Milano per dei servizi in eretta, soprattutto nel fine settimana, ponte tra periferia e centro città. Brevissimamente uno sguardo al territorio, due parole. Il territorio di Como è evidenziato in rosso. Questo è un estratto di una carta che potete consultare tutti sul sito della Regione Lombardia, che in sostanza ci fa vedere le aree più predisposte al pericolo, al dissesto. Come è naturale che sia, le aree maggiormente predisposte al dissesto sono quelle poste sui pendii. Di fatto a Como buona parte di queste aree sono comprese nella zona del Parco della Spina Verde, che qui viene ben evidenziato. Da un certo punto di vista questo ci permette di riflettere su un fatto che quando c'è una legislazione a tutela del territorio, come quello che può essere il vincolo di inedificabilità all'interno del Parco della Spina Verde, noi vediamo bene da questa foto aerea come l'inurbazione resta ai margini. E quindi, vabbè, faccio un riferimento all'attualità, no? Avete visto cosa è successo a Genova, cosa è successo alle Cinque Terre. Praticamente tutte le zone urbanizzate sono naturalmente più impermeabili. Quando abbiamo degli eventi con precipitazioni straordinarie, l'acqua scivola velocemente nei condotti idrici di smaltimento, nei corsi d'acqua, e quindi si possono creare delle situazioni di pericolo. Sarebbe auspicabile appunto che si cementificasse il meno possibile e comunque secondo dei criteri di rispetto del territorio. Ora, anche in questo caso il quadro normativo è esaustivo, è fatto anche bene. Qui citiamo la legge derivante, il famoso piano di governo del territorio, che peraltro a Como non è ancora entrato in vigore. Il piano di governo del territorio è figlio di una legge regionale del 2005, è uno strumento di pianificazione comunale che si pone l'obiettivo di interagire con gli altri strumenti di pianificazione e pone grande enfasi sull'aspetto della sostenibilità ambientale del piano. Questa è un'immagine curiosa, è una pubblicità Progresso del 1977 e già nel 1977 erano all'ordine del giorno alcuni problemi che adesso stiamo vivendo drammaticamente. Ho infilato una citazione di Tozzi, che è quel geologo famoso, noto, autorevole, che vedete in TV con sempre in mano il martelletto, e fa riferimento alla situazione, a un fatto di attualità: l'alluvione che c'è stata alle Cinque Terre. Lì è successo che c'è stata una precipitazione eccezionale in brevissimo tempo. Nel momento in cui io ho una zona molto inurbata, devo per forza porre attenzione alla manutenzione delle condotte di smaltimento delle acque meteoriche e alla manutenzione degli alvei, altrimenti ci possono succedere dei grossi problemi. Per di più c'è un regime delle piogge che si sta modificando nel tempo, perché assistiamo a degli eventi eccezionali sempre di più frequenti. Questa è una slide che salto per motivi di tempo. Il quadro normativo per quanto riguarda l'ambiente è complesso, qui vengono citate solamente due leggi, il testo unico per l'ambiente e una novità recente in materia ambientale che deriva da un recepimento di una direttiva europea. Il Consiglio dei Ministri il 7 luglio 2011 ha previsto, con un decreto legislativo, che ci possa essere una sanzione non più solo pecuniaria, ma anche proprio a carattere interdittivo per chi, impresa o singolo cittadino, a causa di una malgestione causi un danno ambientale derivante da inquinamento o quant'altro. Problema acqua. È un problema vasto da affrontare, perché l'acqua è da una parte un bene che tutti utilizziamo, indispensabile, ci disseta, ci permette di vivere, è alla base della vita, e da un'altra parte è un servizio che noi riceviamo in tutte le nostre case attraverso la rete idrica. Qua sarà fatto un esempio degli utilizzi dell'acqua, quanto se ne consuma: 400.000 litri per fabbricare un'auto, qui per produrre cibo 1.300 per un chilo di grano, 15.300 per un chilo di carne. Ci sono vari problemi connessi, saltiamo quelli dell'industria, vediamo il cittadino cosa può fare. Noi tutti possiamo ridurre il consumo d'acqua utilizzando degli elettrodomestici a basso consumo, oppure applicando dei riduttori di flusso ai rubinetti delle nostre case. Scusate, sono andato indietro. Ok. Volevamo, per chiudere, però affrontare velocemente anche quello che è accaduto a livello normativo all'acqua, e quindi in riferimento anche al referendum che abbiamo recentemente votato. Praticamente diciamo che i servizi pubblici a livello di normativa europea e anche italiana possono essere inquadrati come servizi pubblici a rilevanza economica oppure privi di rilevanza economica. A scopo di lucro, quindi io investo in un servizio, lo fornisco e poi però ci ricavo anche un utile oppure no. L'acqua via via, da un punto di vista legislativo, era stata compresa in quei tipi di servizi che venivano forniti, ma che doveva fornire anche un guadagno. In realtà poi questo era ben delineato nell'articolo 23 bis della legge 133/2008. In realtà, con il referendum del 12-13 giugno 2011, è stato abrogato, e quindi anche la remunerazione sul capitale investito è stata cancellata. Di fatto però il 13 agosto 2011 c'è stata la manovra di Ferragosto, in cui nell'articolo 4 è stato reintrodotto lo spirito dell'articolo 23 bis, e quindi non per quanto riguarda l'acqua, ma altri servizi pubblici, quali il trasporto locale e la gestione dei rifiuti solidi urbani, sono stati visti come servizi che possono fornire un utile, quindi da dare in gestione anche a scopo di lucro. Inoltre è stato introdotto un articolo, l'articolo 5, che in sostanza mette a disposizione un incentivo di 500 milioni di euro a favore di quegli enti che provvederanno alla dismissione delle partecipazioni azionarie in società esercenti dei servizi pubblici. Cioè, in sostanza, se privatizzi ti do un incentivo. Per quanto riguarda Como, il servizio idrico integrato è attualmente affidato al gruppo CSM Agam, è una multi-utility, di cui fa parte anche il comune di Como e di Monza. gestisce l'erogazione dell'acqua potabile come Brunate, Cernobbio e Monza. La depurazione dell'acqua è affidata alla Comodepur, che è una società per azione. In quel diagramma cotorta si vede com'è ripartita la quota azionaria. Fra l'altro la Comodepur sta lavorando in regime di proroga perché la concessione è scaduta nel 2005. Di fatto però il referendum ha dato un risultato sotto questo punto di vista. Infatti, ecco, qui c'è una data sbagliata perché è il 19 ottobre, l'Assemblea dei Comuni ha deciso di costituire un'unica società a capitale interamente pubblico per gestire il servizio integrato, e questo è avvenuto anche alla luce del risultato referendario. Se ho ancora tempo farei due parole sull'elettromagnetismo, proprio velocemente. Anche recentemente in giunta si è discusso con una delibera antenne. Anche qui l'Assemblea parlamentare europea ha dato delle direttive, diciamo, per quello che riguarda l'esposizione della popolazione a radio frequente, ispirandosi a un principio di precauzione, ossia prevenire è meglio che curare. Siccome non sappiamo esattamente quali sono gli effetti dell'esposizione alla radiofrequenza, non esistono ancora degli studi precisi e sistematici, anche se qualche evidenza di danno comincia a comparire, hanno dato delle direttive imponendo al chiuso delle esposizioni con delle soglie che non superino 0,6 volt metro nel medio termine e poi a lungo termine un abbassamento a 0,2 volt metri. E soprattutto una cosa interessante da rilevare per la protezione dei bambini: hanno dato come direttive che nelle classi, nelle aule, nelle scuole si dia preferenza alle connessioni internet cablati e quindi non wireless, e ci siano dei regolamenti severi per l'uso dei cellulari. Nel frattempo Brunetta annunciava il wifi per tutti nelle scuole, quindi bisogna mettersi un po' d'accordo, insomma, sull'esposizione. Vabbè, qui ci sono altre cose, ma le saltiamo. Ecco, nel frattempo i produttori di cellulari, però qua c'è una nota ditta di smartphone, stanno mettendo delle norme per tutelarsi nelle istruzioni. E per esempio qua ci consigliano di utilizzare il nostro dispositivo solo quando abbiamo pieno segnale, preferibilmente utilizzare l'auricolare, non tenere il dispositivo non in tasca perché ci deve essere una distanza dal corpo di almeno 1,5 cm, e utilizzarlo solamente quando c'è pieno campo anche dalla connessione wireless. E inoltre consigliano di ridurre il tempo speso durante le telefonate, quindi loro si stanno tutelando, tuteliamoci anche noi, diciamo. Con questo ho concluso, ho fatto una corsa, mi spiace, non è stato facile. Grazie Maurizio, benvenuti a tutti anche da parte mia, saluto i candidati intanto, Marcello Riantorno, consigliere comunale del Partito Democratico, e poi Mario Lucini, capogruppo del Partito Democratico, Bruno Magatti, della lista PACO, e poi Gisella Introzzi, nuovo nome, ormai noto però, deputato, si è presentato ampiamente nel corso di queste settimane, qualcuno dice l'outsider, vedremo, insomma. Grazie a voi nonostante il tempo di essere venuti. Il tema ci permette di abbracciare molto più di quanto la traccia non dica, perché insomma, si collega a delle esigenze, delle urgenze cittadine che ben conosciamo, che nel nostro piccolo anche noi documentiamo quasi quotidianamente, per cui insomma il lungo lago lo conosciamo, la ticcosa è quello che speriamo avvenga nel corso dei prossimi giorni, la vera domanda è il come. Comunque partito ieri il cantiere per la bonifica, sempre di ambiente si tratta, le misure antinquinamento di questi anni, mi piacerebbe sapere i candidati poi cosa ne pensano, abbiamo visto del fumo espandersi da Palazzo Cernezzi, quale utilità, voluto l'assessore all'ambiente Diego Peverelli, quale utilità effettiva, magari loro lo sanno. Qualche tema di stringente attualità c'è con il tema ambientale complessivo, forse di un ecologismo un po' tardivo che però è cresciuto meglio e bene in tutti noi in questi anni grazie al cinema documentario, al cinema di denuncia, grazie partendo da Igor ma andando anche a esperienze meno note ma forse anche più valide. Allora, abbiamo 5 minuti a testa per un intervento a braccio e Stefano si è appellato a un rigore assoluto, io sono dotato di cronometro, lo uso, così la par condicio c'è. Intervenite, nel senso che poi non deve diventare un dibattito tra me e loro che è noioso e magari anche un po' troppo autoreferente. Io vado con le domande, quando uno vuole alza la mano e diventa più semplice e carino per tutti. Parto da Marcello per comodità e poi ci ripassiamo il microfono. Grazie, buonasera a tutti. Questo è il primo incontro che come candidati noi teniamo sia tra di noi che con il pubblico. Il tema è estremamente importante ed attuale, gli altri temi che seguiranno lo sono altrettanto. In 5 minuti cosa si può dire? La materia è estremamente complessa, ricca di contenuti e di problematiche e in gran parte sicuramente rientra nelle competenze dell'ente locale. Io, così parlando a braccio e riferendomi al filmato, in particolare pensavo alla Black Carbon, laddove si faceva riferimento al centro di Milano, no? Piazza Duomo, eccetera, e pensavo ad alcune zone di Como, come per esempio le strade di percorrenza da parte di numerose autovetture, penso ai viali, penso a via Borgovico, a via Le Masia, tanto per citarne qualcuna, luoghi che conosciamo e qualcuno di noi ci vive pure, e immagino che lì veramente altro che Black Carbon, lì sarebbe oltremodo Black Carbon, perché ho l'impressione che veramente, ho un dato certo che io voglio comunicare alla platea, ed è un dato sicuro perché l'ho verificato, soltanto in piazza Santa Teresa vi è una circolazione quotidiana di autovetture che raggiunge circa il numero di 60.000 auto al giorno, non so se lei lo sapeva o gli altri lo sanno. E per quanto riguarda la città di Como, in entrata e in uscita, il numero delle autovetture che entrano ed escono ogni giorno sono 200.000. Si dice che per quanto riguarda l'autostrada di Grandate il numero è inferiore, che non raggiunge neanche i 40.000. Io so che l'autostrada dove io vado, vi passo una volta l'anno andando in vacanza, la Salerno-Reggio Calabria ne ha circa 30-35.000. Quindi voi potete immaginare ora, dal punto di vista dell'inquinamento ambientale, cosa deve sopportare questa bellissima città di Como. Questo non soltanto dal punto di vista anche dell'inquinamento, per esempio PM10, io ho verificato oggi che il numero di giorni che ha oltrepassato la soglia diciamo di tolleranza soltanto in ottobre è stato di 7 giorni. Se togliamo i 2 mesi, mi spiegava un esperto, perché noi non siamo tuttologi, quindi comunque abbiamo il dovere quantomeno di informarci, se togliamo i 2 mesi estivi noi raggiungiamo una soglia che non sono i 40 giorni di cui al quadro, a me risulta che i giorni sono di più, quasi il doppio. A Milano ho letto pochi giorni fa che erano 100-110, a Como saranno 60-70, poi magari i presenti che sicuramente sono informati. Quindi noi abbiamo una situazione di inquinamento acustico, per esempio, estremamente preoccupante. Io vivo su arterie trafficate da 30-35.000 autovetture, il viale, oppure su stradette di larghe 2,5 metri che sono percorse da 25.000 autovetture al giorno, e questo chiaramente siamo nel centro di Como, dove l'inquinamento acustico è veramente estremamente preoccupante e sicuramente genera danni gravi alla salute. Quindi il che fare? Allora, in un minuto chiaramente non posso dirlo, ma noi sappiamo il che fare, le linee strategiche di breve, medio e lungo periodo. Abbiamo le idee chiare, sicuramente dobbiamo intervenire innanzitutto sulla causa di questi fatti gravissimi, che sicuramente è la mobilità. Quindi noi a Como abbiamo una situazione di mobilità estremamente preoccupante. La città è assolutamente disorganizzata e va completamente riorganizzata. Io credo di aver esaurito il mio tempo, poi vedremo come la riorganizziamo. In che modo noi la riorganizziamo? Beh, innanzitutto parlando della mobilità, quindi sì, allora, sicuramente il problema del sistema dei parcheggi, a partire dalla estrema periferia via via, quindi prevedendo i parcheggi di cintura, i parcheggi della Convalle, i parcheggi anche al confine della Convalle, quindi già nel piano di governo del territorio sono stati fatti alcuni accenni sui quali poi, quando il giorno 8 ci confronteremo anche su quel progetto, poi andiamo a verificare sulle singole situazioni. Allora si pensa ad esempio anche di spostare alcuni interventi che riguardano le zone più trafficate, come ad esempio di portare la stazione delle autolinee, questo rientrava anche nel programma del centro-sinistra del 2007, alla stazione delle Ferrovie dello Stato, dove lì si potrebbe, si prevede anche nel PGT, si parla di un parcheggio con circa 700 autovetture che possono essere possono lì sostare, multipiani eccetera, ed altri tipi di interventi di costo sono previsti anche nella delibera che è stata adottata. Quindi allora il problema dei parcheggi, il problema poi anche il problema della, diciamo, dei parcheggi, il problema naturalmente va affrontato riguardo anche alla possibilità della sosta per i residenti, il problema del trasporto pubblico collettivo e quindi dei mezzi, della, dell'incremento dello stesso, della sua razionalizzazione. Grazie, io qui mi fermo, grazie. Buonasera, dunque, vediamo cosa riesco a dire in 5 minuti. Direi che il problema dell'inquinamento, in particolare dell'aria a Como, sta diventando una cosa molto grave, molto preoccupante, che non può essere più circoscritta a una sensibilità di gruppi particolari di persone, ma è diventato un problema di interesse collettivo e di percezione collettiva. La percentuale di incidenza di malattie respiratorie e anche malattie più gravi sulla nostra popolazione è molto rilevante, senza arrivare a livelli gravi, però io ho tre figli, due figli su tre soffrono di asma, cosa che non era nella familiarità né mia né di mia moglie, quindi la situazione e così si sentono molti altri, soprattutto giovani, che si immettono in questa nostra città in cui il problema si è aggravato pesantemente. Allora vediamo, dal punto di vista il problema essenziale e primario è quello dei consumi energetici. Di fatto come consumi e come emissioni di CO2 in atmosfera, l'incidenza più rilevante è proprio quella degli edifici che ci sono, che arriva fino al 70% poi del totale delle emissioni. Poi su sostanze particolari incide magari più il traffico, però diciamo globalmente l'influenza più pesante c'è nelle abitazioni, quindi il problema della gestione energetica è il primo da affrontare, anche perché richiede tempi lunghi per ottenere dei risultati. E il piano energetico comunale del 98 non è stato ormai superato, non è stato mai attuato se non in misura parzialissima. Gli unici interventi che sono stati fatti sono i controlli sulle caldaie da parte del comune, che qualche risultato l'hanno dato, mentre non c'è praticamente nessun controllo sull'efficienza energetica degli edifici. Ci sono norme precise per i nuovi edifici che dovrebbero essere rispettate, ma che nessuno controlla, e c'è inoltre l'esigenza di intervenire anche con incentivazioni, per esempio su riduzione su determinate tasse, per migliorare l'efficienza energetica degli edifici in sede di ristrutturazione. Un altro elemento importante è quello del contratto di gestione del calore delle strutture pubbliche, che dovrà essere rinnovato e che potrà essere uno strumento da utilizzare per scambiare risparmi nella gestione con un aiuto da parte di chi vincerà questo contratto di gestione per migliorare l'efficienza degli edifici comunali. Edifici comunali che andrebbero tutti verificati e catalogati in modo più preciso, in modo da evitare di fare magari interventi apparentemente interessanti come quelli fatti sulla biblioteca e sul comune di Como, a parte che sono orribili dal punto di vista paesaggistico, ma sono anche di scarsa resa, perché di fatto la priorità su quelle strutture era quella di rifare i serramenti piuttosto che fare l'impianto di solare termico sulle strutture, per cui andrebbe catalogata la priorità su ciascun edificio per intervenire su questi aspetti. L'aspetto della mobilità, dal punto di vista delle emissioni totali, lasciando perdere le sostanze particolari, incide in una misura molto inferiore, attorno al 17% dai dati regionali, però la percezione in termini di qualità della vita da parte dei cittadini è ben più pesante di questo 17%. Allora c'è innanzitutto il problema del trasporto pubblico. Invece che innescarsi un circuito virtuoso, si è innescato un circuito vizioso. Di fatto noi abbiamo un servizio pubblico che offre un servizio relativamente poco appetibile, per cui perde utenza, per cui perde risorse, per cui peggiora ulteriormente il servizio, per cui diventa ancora meno appetibile. Allora è necessario rompere questo circolo vizioso, magari trovando anche strumenti nella gestione di mobilità, a partire dalle corsie preferenziali, eccetera, e dallo strumento tariffario per i parcheggi, perché sicuramente bisogna parlare anche di questo per i parcheggi centrali, in modo da ridare respiro al trasporto pubblico, ridare la possibilità di investire risorse e quindi ribaltare il concetto. Se diventa più interessante, più appetibile l'utilizzo del trasporto collettivo rispetto a quello individuale, riusciamo a migliorare un po' la situazione. Accidenti, va bene, no. Se altre puntate ne parliamo. Permettete che sia in piedi che parlo meglio. Allora, io vorrei partire da uno spunto che ha detto Mario, che è quello della gestione del calore. Voi sapete che gli immobili pubblici, chiunque ci abbia lavorato o ci sia stato, sa che fa un caldo infernale d'inverno, poi in primavera un freddo d'inverno, poi primavera fa caldo, si aprono le finestre e dalle finestre se ne va spesa, se ne va calore, se ne va energia. E come ha detto Mario, sta per scadere questo appalto e io vorrei che noi chiedessimo tutti insieme che l'amministrazione attuale non rinnovasse questo tipo di appalto. Perché dico questo? Perché mi sono permesso di chiedere durante appunto questi mesi passati quanto è il costo energetico per esempio di Palazzo Cernezzi. Non lo sa nessuno, cioè nessuno sa dirvi quanto è costato nell'inverno passato il riscaldamento di Palazzo Cernezzi, piuttosto che di questa struttura, piuttosto che di una scuola, piuttosto che di una qualunque altra realtà che è in gestione. In questi anni il Comune ha investito rifacendo facciate, rifacendo infissi, coibentando qualche struttura. Il beneficio economico di questa operazione chi è andato? Probabilmente al gestore del calore, il quale sì è vero, come ha detto Mario, ha un accordo per cui è suo interesse ed è interesse del Comune che si facciano interventi di miglioria anche sulle strutture che gestiscono il riscaldamento, cioè dico gli impianti. Però tutto questo oggi è assolutamente nelle mani del gestore, non è nelle mani del controllo pubblico. Questa cosa la dico con assoluta consapevolezza, perché dobbiamo capire che il problema nella sua complessità oggi sfugge al controllo anche degli amministratori. È decisamente dentro un processo in qualche modo anche un po' ideologico, per cui il meccanismo dell'affidamento della gestione rassicura, rasserena e forse succederà che risparmieremo e inquineremo meno. Questo probabilmente non è vero. È stato citato poi adesso sempre da Lucini il fatto che questa città si era dato un piano energetico. Dentro questo piano energetico fatto appunto negli ultimi anni 90 esistevano una serie di prospettive, una serie di progetti, una serie di indirizzi dentro i quali si muoveva per esempio il tema della raccolta differenziata, il tema complesso del rapporto della città col forno di incenerimento, il tema del trasporto pubblico, il tema di una mobilità sostenibile, e anche qui evidentemente non affrontiamo il tema della mobilità sostenibile senza affrontare il tema urbanistico. È il tema urbanistico che risolve quel problema e noi ovviamente non possiamo aspettare che semplicemente lo sviluppo tecnologico dei mezzi di locomozione risolva il problema dell'inquinamento. Dobbiamo noi stare dentro questo problema e gestirlo in qualche modo, per esempio andando a ripensare la collocazione di determinati servizi. Ma torno indietro, sul trasporto pubblico noi chiedemmo che si passasse per esempio immediatamente a dei mezzi di trasporto pubblico meno inquinanti. Rispetto a 10 anni fa certamente il progresso si è stato, ma voi avete mai visto in città di Como un autobus ad alimentazione mista, gasolio metano? Prima è stato detto che anche il metano inquina, certo è vero, ma il metano produce soltanto ossidi d'azoto e ossido di carbonio, mentre se noi alimentiamo un un autobus con il gasolio, questo produce anche ossidi di zolfo, polveri, per quanto ci siano filtri. Allora, questo passaggio non è mai stato fatto, nel senso che anche qui il rapporto di gestione del servizio tutto affidato all'esterno non pone in maniera tassativa e limitativa determinati vincoli. E qui mi permetto di dire che questo problema ci sta interessando in maniera fortissima anche rispetto al tema dei rifiuti. Voi sapete che noi abbiamo presentato una delibera di indirizzo che ha portato l'amministrazione a approvare una riforma che dovrebbe portare in tempi brevissimi la città a una raccolta differenziata vera e non finta come quella attuale. Succede che nel frattempo sono state fatte due gare e nessuna di queste due gare ha visto l'affidamento del servizio. Perché? Perché si è in questo momento in ostaggio di quello che ovviamente fa l'offerta. Quando il Consiglio Comunale di Como appunto ha delineato degli standard molto elevati dal punto di vista della qualità ed è stata fatta la gara, l'offerta del concessionario unico che si è presentato alla prima gara era di uno standard così basso che il servizio non è stato affidato. Questa cosa è successa una seconda volta con la seconda gara, in cui nemmeno con un secondo concorrente si è raggiunta la possibilità di affidare il servizio, con grande vantaggio di chi ancora continua a gestire il servizio come ha sempre fatto da 15 anni a questa parte e con una raccolta differenziata che non c'è. Nel frattempo noi conferiamo i nostri sacchi neri al costo di 109 euro più IVA a tonnellata perché vengano bruciati nel forno. E conferiamo i nostri sacchi viola al costo di 89 euro a tonnellata più IVA perché pure venga bruciato quello che c'è dentro. Perché quello che succede dei sacchi viola è semplicemente che sono squartati dei, come dire, poveretti che fanno questo lavoro, buttano via tutto salvo i contenitori di plastica. Contenitori di plastica che arrivano in fondo al nastro vengono raccolti. Avremmo fatto prima, finisco, a mettere i sacchi nel sacco viola direttamente e soltanto le bottiglie di plastica. Scusate, io invece per comodità continuo a restare seduta, spero che non suoni mancanza di rispetto nei vostri confronti. Io devo dire la verità che sono molto colpita nell'affrontare questa nostra chiacchierata questa sera dai fatti terribili che abbiamo visto alla televisione prima di venire a questo incontro e che mi sembra proprio che siano la denuncia più grave dei ritardi con cui nel nostro paese si guarda a tutte le tematiche ambientali. E credo che questo disastro, questa tragedia che è successa debba portare noi e la gente in tutto il paese ad avere quel cambiamento di atteggiamento profondo rispetto a queste questioni che è necessario. Mentre scendevo dall'auto ho spento la radio e la notizia che davano era il commento inevitabile al fatto di quanto la cementificazione del territorio abbia contribuito a queste tragedie. C'è un dato che due settimane fa avevo sentito, 130 ettari al giorno di suolo fertile viene cementificato. È chiaro che un paese in queste condizioni non può che andare incontro a questi disastri e quella slide che è stata proiettata del 77, se ricordo bene, dice che insomma, i segni premonitori c'erano da tempo. Il guaio è che noi, che la politica, che le istituzioni questi segnali non li ascolta. Quindi la prima cosa secondo me da fare è una grande consapevolezza e una grande attenzione ad ascoltare tutte queste indicazioni, ad ascoltare, a leggere, a porre attenzione a tutte quelle, a quei segnali, a quelle analisi, a quelle ricerche che in maniera diffusa vengono messe a nostra disposizione, vengono messe a disposizione da strutture private che studiano, associazioni varie che studiano questi fenomeni, vengono messe a disposizione anche dalle istituzioni, in primo luogo l'ARPA che si occupa di queste tematiche e che poi però vengono lasciate nel cassetto. Ecco, io credo che uno degli impegni più importanti sia, e anche una questione di serietà, è che dei piani di gestione dell'ambiente, dei piani di salvaguardia del territorio, dei piani per la riduzione del traffico, non si deve fare semplicemente così un esercizio di appunto di analisi, ma si deve fare la base per degli interventi concreti da sottoporre poi al controllo e alla verifica con tutti i cittadini. Una seconda questione, sono fuori tempo già? Terribile. Una seconda osservazione che mi sembra importante fare è che appunto tutti questi temi, visti nel loro insieme perché vanno affrontati in una maniera integrata, ci rimandano fortemente alla inadeguatezza di un modello di sviluppo che stiamo conoscendo, di un modello di sviluppo economico che si è basato in larga parte sullo sfruttamento di risorse non rinnovabili senza nessuna visione di medio e di lungo periodo. La crisi economica che stiamo vivendo è un momento che, fra le altre cose, ci deve indurre a riconsiderare questo modello di sviluppo e a riconsiderare i comportamenti. Perché i colleghi hanno già citato anche molto dettagliatamente, io sono d'accordo con loro, alcune cose che ad esempio l'ente locale non ha fatto, in un comune che non ha un piano di riduzione dei consumi energetici per le proprie strutture, un comune che non ha un mobility manager per ottimizzare e ridurre i flussi di traffico, insomma è un'istituzione che è poco attenta e che, ripeto, non dà nemmeno attuazione a quelle che sono le norme che a livello europeo e poi a livello regionale e poi a cadere ad altri livelli sono state emanate e i piani di attuazione che sono stati realizzati. Ma accanto a questi comportamenti, un esempio che deve venire dall'alto e quindi il cambiamento dei comportamenti da parte, in questo caso del comune, credo, penso che si debba lavorare molto con tutti i cittadini. Un'azione che sicuramente il comune deve fare e può fare è quello di far crescere la consapevolezza di come devono essere cambiate anche le abitudini quotidiane di ciascuno. Io ricordo un po' di anni fa, anni 70, comunque il tema ecologico era di grande attualità. Credo che fosse un'iniziativa realizzata anche attraverso le circoscrizioni, c'erano lezioni di ecologia domestica allora, che avevano proprio questo obiettivo di fare crescere la consapevolezza. Io credo in una forte campagna di sensibilizzazione che parta nelle scuole attraverso i ragazzi, si estenda alle famiglie per vedere come possiamo modificare appunto i nostri comportamenti e in questo modo migliorare le condizioni ambientali e anche fare appello a delle convenienze di tipo economico che ad esempio il contenimento dei consumi energetici sicuramente consente, che una gestione differenziata dei rifiuti e il riciclaggio dei rifiuti sicuramente ci consente. Grazie a tutti quattro. Rispettato il rigore elvetico dei 5 minuti, adesso magari spengo il cronometro e vediamo di darci un tempo ragionevole a testa. Qualche input, magari qualche giro veloce, così poi dialoghiamo anche con chi è venuto a sentirvi. Nel concreto, programmatico, negli ultimi 5 anni 30% delle strade cittadine ha avuto problemi grossissimi di illuminazione. Non sono stati risolti, c'è un contratto di illuminazione, il sindaco più volte a un certo punto ha detto di aver scoperto il LED, nuova tecnologia che in qualche modo avrebbe ridotto i costi, l'investimento col contratto col gestore però non è stato calcolato né quantificato, né rivisto il contratto col gestore che è nel sole, vado a memoria se non sbaglio. Allora la domanda è questa, innanzitutto ci sono interi pezzi di città che rimangono al buio per giorni, settimane. C'è un problema di collegamenti sotterranei che vanno completamente ristrutturati, c'è un problema di dispendio energetico, perché noi andiamo ancora a lampadine, non è la lampadina di casa ma di fatto qualcosa di molto molto simile, per cui un giro veloce, esiste la possibilità di un piano diverso, di un contratto diverso? Tra l'altro il LED, che è una tecnologia a basso impatto ambientale, è una tecnologia che permette anche di evitare altre forme di inquinamento, che è l'inquinamento luminoso. Se vi è capitato, se è capitato a qualcuno di vedere dall'alto, anche solo con Google Earth, niente di che, le città che si sono spostate sull'illuminazione a LED, si ricominciano a vedere i panorami dall'alto e dal basso, si ricominciano a vedere le stelle. Per cui diciamo, ci sono due vantaggi. Esiste una strada diversa qualora uno di voi fosse sindaco? Ma guardi, a proposito della luce, io credo la città di Volta, che poi ho letto i motivi di Saladino, cioè la città di Volta è la città più buia d'Italia, Effettivamente la situazione è disastrosa. Quando arrivano delle persone che magari per la prima volta e magari di sera, in effetti vedono la città così buia, così poco illuminata, e peraltro spesso in alcuni, per esempio Viale Battista è stata per mesi, la comunità, anche dei cittadini residenti in quella zona hanno fatto un mare di proteste, Via Lucina, a proposito che comunque non è intestato al collega, Via Lucini vicino l'Enel che è buia, è una città buia, peraltro anche dal punto di vista dell'arredo, faccio riferimento per esempio all'impianto che vi è al giardino al lago, proprio prospiciente il monumento ai caduti, secondo appunto delle persone che me l'hanno segnalato, perché noi non siamo appunto esperti di queste cose, il tipo di lampade che sono state usate vengono utilizzate, effettivamente io poi l'ho riscontrato, nelle periferie di alcune città e noi l'abbiamo messa invece nel centro della città. Quindi è evidente che da questo punto di vista tutto il sistema dell'illuminazione va rivisto, va assolutamente riqualificato e questa bellissima città deve essere resa visibile. Sì, bene, non è che c'è moltissimo da dire. Allora, i punti sono: il contratto attualmente non funziona, perché lo vediamo tutti, al di là del centro città ci sono vaste zone della periferia che rimangono in panne per mesi e mesi. Il sistema LED sicuramente è una strada, è già stata sperimentata in tanti comuni, mi sembra molto importante anche il secondo aspetto che sottolineavi sulla possibilità non solo di garantire l'illuminazione per chi ci vive, ma di contenere molto l'inquinamento, oltre che i consumi, anche l'inquinamento luminoso, quindi sicuramente è una strada molto interessante, già percorsa da altri, richiede dei costi iniziali un po' più significativi, si tratta di andare a guardare i contratti d'appalto. Allora, se è una nota di programma oppure no? Sì, sì, no, sicuramente, perché è evidente che la tendenza è verso quello, probabilmente visto i costi dovrà essere un'attuazione graduale, perché il costo iniziale del cambio col sistema LED ha dei costi iniziali su una città così grossa che sono abbastanza importanti, per cui probabilmente dovrà essere attuata gradualmente, ma è la strada che poi dopo ti consente anche di ammortizzare, però l'ammortamento su tutta la città in una botta sola, nelle situazioni in cui siamo adesso, è abbastanza complicato. Sì, restando alle questioni, adesso è chiaro che le cose già dette non le ripeto, però c'è un denominatore comune sul tema che si sta trattando con alcuni trattati prima, ed è il problema del controllo degli appalti. Io chiedo quanti dei cittadini presenti hanno un'idea di quelle che sono le penali che dovrebbero essere applicate al gestore della raccolta differenziata dei rifiuti. Se voi vedete un camion fermo col percolato che gocciola, e provate a passare delle volte verso il mercato alla sera del sabato e succede, e lì si può sanzionare, anzi è prevista la sanzione. Se lo metto della CSM non ha la divisa, è prevista una sanzione. Il problema vero è che ci sono un sacco di servizi che sono dati in appalto: il trasporto pubblico, la gestione del calore, l'illuminazione e via discorrendo. Il controllo chi lo fa? Noi siamo convinti che bisogna, in una società come questa, in cui tutti quanti voi avete in tasca sicuramente un dispositivo per far telefonate o per mandare sms, debba essere trasferito ai cittadini. Non nel senso che la segnalazione dello squilibrato diventa automaticamente una sanzione, ma nel senso che il cittadino che conosce il capitolato e rileva il fatto che questa cosa non sta funzionando come dovrebbe essere, lo possa segnalare all'ufficio, l'ufficio intervenire e applicare la sanzione. Se non si fa così, è tutto grasso che cola per coloro che hanno in gestione i servizi. Io anche qui la domanda era: è un punto del programma? Io la domanda il programma, è certamente, sicuramente scherperando sul fronte di riscaldamento, ma dall'altra parte non ha una politica dell'illuminazione a bilancio pesa, ma pesa tanto. Esatto. È una luce differente. Volevo solo dire che, essendo tutti e quattro d'accordo ed essendo il programma da costruire sulla base proprio delle risultanze delle primarie, questo sarà senz'altro oggetto di una proposta convergente da parte di noi quattro. Colgo questa occasione per sottolineare questo aspetto importante delle primarie, che poi il programma comune lo realizzeremo tutti quanti assieme. Una cosa sola in aggiunta a quello che i colleghi già hanno detto. Io personalmente abito in una zona della città nella quale non c'è buio, anzi mi è capitato di avere i lampioni accesi durante la giornata. Quindi credo che ci sia da recuperare in questo caso anche un rapporto più equilibrato fra centro città e le periferie, perché le periferie, fra i problemi, fra le disattenzioni di cui soffrono, c'è senz'altro anche questo dell'illuminazione, che non esiste in altre parti. Ripeto, può esserci invece una situazione assolutamente di spreco. E allora il problema fondamentale, oltre al controllo delle appalti, è quello di progettare un sistema in cui il contenimento dei costi energetici, il contenimento dei consumi energetici, come prima dicevo, parte innanzitutto da una progettazione intelligente da parte dell'ente pubblico, da parte del comune, e gli strumenti moderni che abbiamo a disposizione consentono senz'altro di fare questo in maniera molto efficace, anche con il contributo delle segnalazioni dei cittadini. Una cosa importante, è stato giustamente citato Como città di volta, che quindi dell'illuminazione dovrebbe fare qualcosa di più importante. Un'altra osservazione è che quella che tutti i lampioni a lago, ad esempio, sono assolutamente difformi gli uni dagli altri, non c'è neanche un'armonia da questo tipo. Forse anche qui, facendo appello anche a dei finanziamenti privati di società interessate in termini pubblicitari propri, forse qualche intervento importante potremmo fare e avere dei risultati. Nella spennellata iniziale che abbiamo avuto, ben più di una spennellata, detto con sicuramente un ottimo lavoro, in quello che avete detto nel vostro primo giro a braccio, smog, i numeri quest'anno sono sicuramente migliorati rispetto all'anno scorso, comunque continuiamo a superare i limiti europei, limiti che peraltro abbiamo preso stasera, sono deputati a scendere ulteriormente i limiti fino a 7 giorni, tollerabili all'anno. È piovuto tanto, comunque i riscaldamenti si sono accesi anche dopo quest'anno, per cui c'è stata la somma delle due cose. Stando alla viabilità, stando al numero di auto che transita ogni giorno per la città, stando al fatto che è una città che non offre un numero di parcheggi sufficiente alla richiesta, adesso andiamo verso la chiusura del parcheggio della Ticosa che sarà intorno alla metà di gennaio, non si sa se tornerà, in che modo, di Ticosa parliamo dopo. Stando dell'esperienza che abbiamo visto negli anni, alcune anche buffe, dai, oggettivamente l'assessore Peverelli ha spalmato colla sulle strade convinto di raccogliere il PM10 e, come citavo all'inizio, ha spruzzato Alessandro la colla. Ah, è vero, era d'Alessandro, è vero. Poi la sera, è vero, Peverelli, è vero. Giusto, preparato. E poi invece Peverelli ha spruzzato ozono, credo che fosse ozono, dal, come dico, sono Pio, vabbè, era qualsiasi cosa, comunque non è funzionata. Poi quando hanno chiesto dei soldi, grazie a Dio l'hanno spento, è andata più o meno così. Abbiamo assistito a queste due campagne. Una modifica seria, concreta, del disegno viabilistico della città, io vedo sulla traccia che mi ha dato Stefano, mobilità, permetterebbe un calo drastico dell'inquinamento, se siccome, per cui come vanno ridisegnati i parcheggi, come vanno ridisegnate le strade. E oggi un collega mi diceva, ma chiedigli anche se vogliono fare l'Ecopass, quindi io ve lo chiedo, va bene. Deve rendere una domanda da $1 milione perché richiederebbe del tempo, perché per rispondere a questa domanda, qui abbiamo l'ingegnere Lorini che ci lavora da una vita, ovviamente anche lui stesso avrebbe bisogno di molto tempo. Allora, la prossima volta naturalmente, dopo di noi, grazie. Quindi, allora, il discorso è ridisegnare la città, è ovvio, cioè è assolutamente indispensabile perché siamo alla frutta, perché basta pensare all'esperienza di ognuno di noi. Basta percorrere la città, oggi per esempio qualcuno di noi doveva fare una cosa in via Paoli in un orario che erano le 5, sostanzialmente dal centro città a via Paoli e ritorno si sono impiegati 2 ore e mezzo. La mattina se si scende alle 8:30 da via Bixio si arriva con 40 minuti a piazza Santa Teresa, via Paolo, quindi va assolutamente ridisegnata come. Allora qui ci sono già delle proposte da tempo e altre proposte sono sul tappeto e quindi è assolutamente realizzabile. La Borgovico Bis c'è già un progetto, quindi si tratta di portare avanti questo progetto, di realizzarlo, poi si tratterà di vedere anche come finanziarlo, perché le ipotesi sono due sul tappeto, quindi si dovrà fare una scelta se si hanno i soldi necessari per farlo oppure bisogna andare su un progetto finanziato. Il problema dei parcheggi, io voglio essere qui per essere nel concreto e dire cose che magari sulle quali ci può essere un dibattito. Allora, tutta la zona centrale le va rivista assolutamente, non è, allora, noi vediamo il parcheggio di Valmulini, che peraltro per quello che è assolutamente vuoto, non ci sono le macchine, mentre il centro è strapieno di macchine, no? Quindi bisogna pure chiedersi perché questo avviene. Al lago, se noi andiamo al lago in Viale Puecher, è un tema che noi abbiamo trattato anche in consiglio comunale, Viale Puecher a tutti noto, lì si pagano 3 euro al giorno per sostare dalle ore 8 alle ore 17, dalle ore 17 in poi è gratis. Mentre per esempio su via Sinigaglia, che è la parallela, si pagano invece dalle ore 8 alle ore 20 e si pagano per un totale di 3 o 4 volte questa posta. Quindi voi è assolutamente irrazionale, queste scelte sono assolutamente irrazionali. Quindi di fronte a un sistema che è irrazionale, noi abbiamo una città che sta diventando invivibile. Quindi bisogna assolutamente razionalizzare la città con una visione d'insieme, non con interventi a punti, ma con un intervento a sistema. Quindi qui ci sono delle proposte sul tappeto, nel concreto per esempio, e noi abbiamo presentato un emendamento, il sottoscritto l'ha presentata ad esempio, di rendere ZTL la zona che va da Teatro Sociale fino a Piazza Duomo, che attualmente è trafficata anche con i mezzi pubblici, e avevo proposto un emendamento che non è passato per uno o due volte, che comunque è stato fatto proprio dalla maggioranza, mi pare che da gennaio verrà realizzato, i mezzi pubblici invece di passare in via Plinio, che recono i problemi, andranno sul viale Lecco, e lì diventerà una zona ZTL che io estenderei anche su Piazza Volta, la parte di sito, la famosa Piazza Jasca, andrei su via Grassi, via Garibaldi, via tutta quella parte lì. Ecco, quindi allora, spostando evidentemente queste lì dovranno essere zone dove non si può più parcheggiare, si tratterà poi di affrontare, magari ne parliamo dopo, il problema dei residenti, dove metteranno le macchine e a quale condizione. Quindi io mi fermo qua perché il tema naturalmente ci porta lontano. Allora, posteggi, ci sono pochi posteggi, non so se piacerà a tutti quello che dico. Il problema è che se partiamo con la logica della domanda di posteggi, i posteggi non saranno mai abbastanza, perché se abbiamo un posteggio per 100 macchine ne arrivano 200, se lo facciamo da 200 ne arrivano 400, se lo facciamo per 400 ne arrivano 1000. Per cui in Convalle, in centro attorno al centro storico, a parte quello che c'è già, il problema da risolvere è quello della sosta dei residenti. Dopodiché è assurdo pensare di creare altri attrattori di veicoli privati. Quindi non penso che servano altri posteggi in centro. Gli autosili che sono stati fatti dovevano servire per rimuovere qualche posto auto a raso e renderlo magari disponibile per aumentare le corsie preferenziali dei bus. Si può fare già da ora qualche chilometro in più di piste ciclabili anche in centro storico senza grandi costi. In questo senso non si capisce perché non sia partita una delle poche iniziative che noi abbiamo considerato valide e abbiamo condiviso, cioè quello del trasporto, della consegna delle merci in centro storico con mezzi ecologici. Questa era sicuramente una cosa positiva, non decolla, probabilmente non sono state utilizzate le leve o gli strumenti giusti, ma questo è uno dei primi provvedimenti che va fatto partire per liberare il centro storico dai trasporti che sono assolutamente invasivi e che vanno a incidere sulla pedonalità e sulla ciclabilità. Dopodiché appunto c'è il discorso del potenziamento del trasporto pubblico. L'autosilo di Valmulini è vuoto, bisogna incentivare in tutti i modi la possibilità di utilizzo anche con costi e con promozioni assolutamente vantaggiose. cioè anche se io faccio posteggiare con un euro tutto il giorno e do anche il biglietto del bus, adesso non prendo niente, almeno comincio a incassare qualcosa, incentivo l'utilizzo, pian pianino se si vede che la cosa funziona, che evito di mettermi in coda, di stare in coda delle ore senza nessun costrutto, inquinando, arrabbiandomi, poi man mano si può anche adeguare un attimino la tariffa agli effettivi costi del servizio. L'altra cosa importante che è stata accennata prima è che non c'è nulla a Como dal punto di vista del mobility management, sia da parte del comune sia da parte dei grossi enti pubblici che ci sono in Convalle. Uno studio dei percorsi casa lavoro per individuare delle forme di incentivo per poter evitare di entrare col veicolo privato in Convalle per persone che si fermano tutto il giorno a lavorare in ufficio è una cosa fondamentale, non ha grandi costi e può produrre importanti risultati anche in tempi relativamente brevi, quindi senza neanche andare a parlare di interventi infrastrutturali che pure poi serviranno anche quelli su alcuni aspetti, ma non voglio esagerare. Io appunto condivido molto delle cose dette, però devo fare un'osservazione. Siamo realisti, quanti di noi stasera sono venuti con l'autobus? Alzino la mano, ecco uno, abbiamo trovato due. In realtà il problema è la speranza che poi qualcuno ti porti a casa, nel senso che non è tanto il venire quanto il tornare, venendo qui la speranza che qualcuno torni a casa c'è. Chiunque abbia provato a usare il mezzo pubblico in questa città sa che il mezzo pubblico è configurato su alcune categorie, che sono gli studenti e sono gli anziani che hanno molto tempo da perdere. E poi adesso per fortuna sono arrivati gli extracomunitari, soprattutto le donne con bambini piccoli, e che ovviamente mantengono il servizio. Però attenzione, se domani mattina tutti quanti noi decidessimo di usare il mezzo pubblico, vi garantisco che non saliamo sui mezzi pubblici, perché così come è configurato, dice Lorini, mi guardi e mi ascolti, questo servizio è fatto per il mantenimento, non per lo sviluppo, niente affatto. Non c'è il progetto di farlo crescere, questo non è vero, è una grande bugia che ci siamo raccontati per anni, e poi magari qui noi ci facciamo, come dire, il discorso sul trasporto pubblico, ma non è vero. Como non ha ancora costruito un pensiero tra i suoi cittadini, tra di noi, non tra gli altri, perché noi pensiamo al trasporto pubblico per farci andare gli altri, ovviamente, perché poi naturalmente noi abbiamo per il nostro trasporto privato o commerciale diritto ad andare svelti e non far la coda e non perdere tempo, giustamente. Però questa cosa non funziona, non funziona, o perlomeno non funzionerà in tempi brevi. Abbiamo perso 15 anni, certo, noi nei primi anni 90 dicevamo si facciano prima i posteggi di cintura e si neghi la facilità di mettere il muso della macchina dentro il lago. Qualcuno addirittura diceva facciamo un parcheggio nel lago, che così questo era il massimo dell'esaltazione per i comaschi. Più bello di così non poteva accadere. E rincorrendo questa cosa si è andati avanti facendo parcheggi nel centro, invocando parcheggi nel centro. Poi ci si stupisce che nessuno ovviamente parcheggia, che so, alla piscina, tanto per dire, un posto che sostanzialmente è a costo zero, raggiungibile e collegato con il centro con una certa frequenza. Eppure questa cosa non funziona, anche perché per come è configurata la città. Dobbiamo davvero pensare che la città ha un suo centro, che è la Convalle, che va effettivamente alleggerita in maniera straordinaria, ma non dobbiamo neanche fare l'errore, perché questo secondo me è importante, di trasferire e accumulare tutto il traffico ai margini di questa zona protetta, perché anche così non funziona. Il percorso, io lo dico con grande realismo, è lungo e va in qualche modo promosso con intelligenza e con pazienza. Ma noi abbiamo vissuto in consiglio comunale, ed è stato sui giornali, non so se sul vostro, sull'altro, sugli altri, non so, ma quando a un certo punto si è parlato di toccare le tariffe dei parcheggi in centro, perché per l'effetto avalanga della mancanza di trasferimenti si dovevano aumentare anche i costi del biglietto dell'autobus, c'è stata ovviamente una levata di scudi. Come? Si aumentano i parcheggi in città? Ma capite, se noi abbiamo un aumento del biglietto dell'autobus e teniamo il costo del parcheggio assolutamente concorrenziale, chiunque di noi, già è complicato pigliarsi un mezzo pubblico, ma ovviamente va in macchina e parcheggia, non ci sono santi. Allora, questo è un processo lungo e lento. Io sono convinto che i risultati più veloci si raggiungerebbero con il trasferimento di alcune funzioni che sono effettivi attrattori di traffico. E poi dico un'altra cosa, che dico da molto tempo, non mi dà retta nessuno, ma lasciatemela dire almeno stasera. E noi governiamo un sistema che è variabile nel tempo, perché i flussi di traffico sono variabili nel tempo, con un sistema stazionario che funziona sempre alla stessa maniera. Per intenderci, i semafori della via Milano funzionano in quella data maniera dalla mattina alle 7, probabilmente fino alla sera alle 8, indipendentemente da quali sono i flussi di traffico. Io credo che dobbiamo lavorare anche su questo. Quando si parlò del tunnel del Borgo Vico, noi abbiamo grandi dubbi, quelli della mia scuola rispetto scuola di pensiero rispetto alla Borgo Vico bis. Io dissi una cosa che mi sembrava sensata: si faccia pure una galleria purché sia fatta solo per andare via, cioè non per entrare. Cioè, io sono convinto che se bisogna dare una mano ad alleggerire il problema della città di Como è alleggerire il traffico verso l'esterno, quindi facilitare lo svuotamento della città. Dal balcone, da dove vedo i lampioni accesi anche durante il giorno, a me capita di vedere un'altra cosa molto spesso, e cioè il flusso di autovetture che arrivano a Lago unicamente per fare il giro della rotonda e tornare indietro. Molto spesso ci sono delle situazioni, manifestazioni, esondazione del lago, eccetera, frequenti, vi assicuro, che bloccano completamente il traffico, e la realtà è che non c'è nemmeno un sistema di segnalazione che faccia sì che le persone non imbocchino una strada, un cunicolo assolutamente cieco. Ecco, queste cose mi sembra che potrebbero più semplicemente essere affrontate con un sistema di informazioni agli automobilisti puntuale ed efficiente, forse anche con un'organizzazione del servizio dei vigili urbani adeguato. Questo per dire come secondo me anche nelle piccole cose non c'è attenzione, c'è trascuratezza. La città che io vorrei è indubbiamente una città liberata da questo caos delle auto, per cui sono senz'altro favorevole ad una soluzione che veda il più possibile l'alleggerimento della città da flussi di traffico che la attraversano, e questo potrà avvenire anche con le nuove infrastrutture che saranno realizzate di collegamento con la tangenziale, per evitare appunto per fare in modo che i passaggi siano all'esterno della convalle senza venire a toccare le arterie che penetrano in città, e con un sistema, e qui è già stato detto e sono assolutamente d'accordo, di posteggi che fermino i flussi di traffico all'esterno. Sostanzialmente nella città io penso che debba essere lasciato più spazio per i residenti, e anche questo credo che sia facilmente realizzabile, e sia lasciato spazio a mezzi di mobilità alternativi, la bicicletta ad esempio, ma anche un servizio pubblico più snello, più efficiente, che riesca, in questo caso pensando anche ai problemi poi degli anziani. Sul sistema del traffico, del posteggi, mi ha colpito molto. Questa mattina ero a Milano in una palestra, quindi in un luogo assolutamente privato, c'è appeso un cartello che sono le nuove disposizioni che il Comune di Milano ha adottato proprio per la disciplina dei posteggi. Allora, mi ha stupito innanzitutto due fatti. Uno, essere arrivati a trasferire queste informazioni in un punto che non è assolutamente pubblico, mi fa capire che dietro c'è una diffusione capillare. E il sistema è estremamente semplice, concesso ai residenti in maniera molto diretta, molto automatica, il posteggio anche nelle zone contrassegnate dagli spazi blu liberamente, delle condizioni agevolate per i lavoratori, soprattutto se sono turnisti o se sono delle categorie che per necessità particolari che devono essere documentate non possono avvalersi dei mezzi pubblici, e poi delle autorizzazioni straordinarie. Ecco, io credo che questo esempio, cioè di avere una strategia, di avere una visione d'insieme di come utilizzare tutti gli strumenti a disposizione e quindi agire sia sulla leva del trasporto pubblico sia di regolamentazione del flusso privato, sia una cosa che in una città come Como, che è di dimensioni più ridotte, deve poter essere fatta. magari ci torniamo, perché credo che più concretamente forse un'immagine, un disegno della viabilità cittadina possa essere offerta. Però abbiamo lambito naturalmente un argomento che ha a che fare strettamente con la cronaca degli ultimi anni e con l'ambiente. L'avete nominato tutti, il Lungolago. Ieri siamo stati informati, c'è una nota ufficiale, quindi siamo stati tutti informati del fatto che chiusa l'esperienza positiva o negativa che sia comunque dell'erba artificiale di Zambrotta, per cui della riapertura parziale estiva di una parte di cantiere, tra poco gli operai dovrebbero tornare al lavoro, quindi entro la fine del mese, bisogna ancora capire in che zona, ma diciamo tra Sant'Agostino, Lungolario Trento e Lungolario Trieste, sia pure lentamente, il cantiere dovrebbe ripartire. Questo è quello che ci hanno fatto sapere, perché noi debitamente abbiamo poi fatto sapere a tutti gli altri. Allora, esondazioni da un lato, sistema anti-esondazione, non ci dimentichiamo, poi le parole sono importanti, c'è qualcuno. Questo non nasce come il nuovo Lungolago di Como, questo nasce come il sistema anti-esondazione. Incidentalmente mi avanzano 2 lire, ci faccio giustamente anche una nuova passeggiata. Le abbiamo fatte avanzare. Quello che vi chiedo è, allora, stiamo parlando di un sistema anti-esondazione, di un cantiere che è aperto da un certo numero di anni, che è destinato a rimanere aperto per un certo numero di anni, chiunque sia il prossimo sindaco, un succedaneo dell'attuale o un avversario dell'attuale, eccetera. Per cui, concretamente, le domande sono semplici e cerchiamo di non perderci magari in tecnicismi. Serve questo sistema anti-esondazione, sì o no? Ormai c'è, questa è la prima cosa. Che destino diamo alla passeggiata, perché comunque è un problema economico fortissimo per questa città, soprattutto in vista dell'estate, soprattutto in vista di altri eventi, magari chi di voi sarà sindaco, se lo sarà, confermerà anche una certa impronta data questa amministrazione sui grandi eventi, non lo so, ma abbiamo bisogno di quel pezzo di lago. E soprattutto, questi lavori quanto stanno incidendo realmente sul primo bacino? Perché del primo bacino noi abbiamo sentito parlare soltanto qualche anno fa, quando un assessore, prima provinciale, poi comunale, poi non sappiamo poi dove sia andato, ha piazzato 4 ventole e ha detto: con 4 ventoloni noi puliamo l'acqua del primo bacino. Si chiamava Pumping System ed era un progetto che secondo alcuni studiosi però aveva un senso, io mi affido alla scienza. Per cui, primo bacino del lago di Como inteso come paratie, come sistema anti-esondazione e come pulizia di questo primo bacino, perché facevamo un titolo nel 2007 dicendo: tutti faranno il bagno nel 2009 nel lago di Como. Dunque, sul problema delle paratie oramai è un tema talmente trito e ritrito che tutti i cittadini, specie i presenti, che sono naturalmente molto attenti come noi, che ci conosciamo tutti. Ora, francamente, ritornare nel merito della questione, diciamo che a me personalmente in questa sede mi interessa poco. Voglio dire alcune cose. Noi abbiamo avuto 3 o 4 riunioni di consiglio dove si sono confrontati i tecnici, i progettisti originari, l'ingegnere Terragni più 2, e gli attuali responsabili, ingegnere Ferro e ingegnere Viola e altri. una dirigente regionale. Devo dire, da non esperto, perché io non sono esperto, io sono un avvocato, non sono un ingegnere né sono un architetto, ma credo che ovviamente siamo di media intelligenza, sia questa un'opinione comune, francamente si sono confrontate 2 tesi che dovrei tirare la monetina in alto per dire quale delle 2 tesi è nella giusto. Così come accade normalmente quando 2 tecnici, se io mi confronto con un mio avversario su un problema magari chiaro, su 4 parole, state sicuri che ne uscirà una biblioteca di interpretazioni diverse. Allora, io dico una cosa per rispondere alla domanda. Faccio una proposta concreta. Io la prima soluzione che propongo e che realizzerei se io domani fossi sindaco, io affiancherei i 2, perché non li posso sostituire in un momento diciamo serio e complesso di questa vicenda, io affiancherei i 2, Viola e Ferro, che a mio parere hanno commesso gravi errori di negligenza e di imperizia, li affiancherei con un gruppo, 3 esperti di chiara e indubbia competenza. Mi farei dire da questi signori con una perizia precisa lo stato della questione, dove ci troviamo, se si può andare avanti e fin dove si può andare avanti oppure non si può andare avanti, perché noi non siamo in grado onestamente di dire a che punto ci troviamo, visto che ogni giorno che passa noi assistiamo a conseguenze negative e dannose, da ultimo lo stacco anche di una parte della scalinata. Prima questione. Seconda questione, una volta avuto l'esito e quindi un esame preciso da parte di persone competenti, perché finora persone veramente brave non ci hanno messo il becco in questa vicenda, poi noi faremo e prenderemo le soluzioni. Naturalmente chiederei a questi esperti anche di valutarmi i danni che questa vicenda ha recato. Dal punto di vista economico sono milioni di euro, dal punto di vista anche del costo che avrebbe questo gruppo di periti che esamina la cosa e dal punto di vista del danno all'immagine. Dopodiché io sostituirei gli attuali responsabili, darei incarico invece ad altri che porterebbero a conclusione, anche per gli aspetti architettonici, perché ancora il concorso di idee che Formigone ha annunciato non è stato fatto. Dopodiché quantificherei i danni e darei mandato a un bel gruppo di legali e chiederei il risarcimento dei danni ai responsabili, anche per complicità politica rispetto a questa vicenda, perché è indubbio che ci sono, come è stato anche scritto, vi sono sicuramente delle responsabilità non solo di natura tecnica e dirigenziale, ma anche ed essenzialmente politiche. Allora, io dico prima una cosa. Scusa, sì. È possibile stabilire adesso una tempistica realistica, verosimile? No, la tempistica non è possibile perché, allora, prima di tutto non sappiamo come verrà consegnato alla fine del mandato, e su quello non abbiamo tanto potere di determinare le scelte. Possiamo continuare a dire che è una porcata, cosa che stiamo dicendo da 15 anni a questa parte, mo se ne sono resi conto tutti. Devo dire che però hanno vinto le elezioni, il sindaco Bruni ha vinto le elezioni col progetto delle paratie, dicendo chiaramente che centrosinistra non l'avrebbe fatto, lui ha detto che l'avrebbe fatto e l'ha dichiarato in sede di campagna elettorale, quindi ha vinto sul progetto delle paratie. Noi tutti quanti abbiamo sempre detto che non serviva, perché non stiamo a spiegare che c'erano mille altri metodi per contenere i problemi delle esondazioni, che era dannoso sicuramente immediatamente per il cantiere che si doveva andare a impiantare e per le conseguenze del cantiere, e che era molto rischioso e continua a essere molto rischioso perché non è ancora stato affatto completato l'intervento nel sottosuolo, perché la seconda vasca non c'è. La prima vasca già ha creato dei problemi allo Swiss, eccetera. La seconda vasca non l'hanno ancora fatta perché si sono fermati per cercare di capire come si poteva fare senza tirarsi addosso tutto. Adesso vediamo cosa fanno, perché questo ce lo portano, vediamo. No, certo. Allora, stavo dicendo, la prima cosa bisogna capire a che punto ce lo danno in mano, perché se ce lo danno in mano così si rinegozia subito con Regione Lombardia e Sakhalin il progetto e l'appalto. Si lascia perdere di andare avanti a fare pasticci nel sottosuolo davanti al terminus prima di creare più danni di quelli che sono stati fatti, si evita di isolare tutto il sottosuolo della Convalle con conseguenze che nessuno sa quali saranno nei prossimi anni, si fa un bel progetto di sistemazione superficiale e degli arredi e si rinegozia con la Regione in modo un po' deciso il discorso della quota di massimo invaso. Che vuol dire? Che vuol dire la quota famosa 200.30, che adesso addirittura è diventata 40, quindi l'opera con la nuova variante, la barriera viene portata altri 10 cm più alta, che dipende semplicemente dai livelli di regolazione che sono consentiti al consorzio dell'Adda. Il consorzio dell'Adda perché deve arrivare per forza a quella quota massima lì, che non è quella di protezione ma quella di... Si possono benissimo rinegoziare i margini per tenere un franco un po' più, un margine di sicurezza un po' più ampio rispetto alle possibilità di esondazione, e questo consentirebbe di superare molti problemi. Ovviamente è una rinegoziazione che va fatta e sulla quale non si può dare garanzie in ordine agli esiti. Di fatto però non si può andare avanti a subire in questo come in mille altri campi, dalla tangenziale all'ospedale Sant'Anna, quello che viene deciso a Milano. Credo che abbiamo il diritto e la capacità di determinare le scelte che ci riguardano. Ma una realizzazione significa un rischio di fermo cantiere ulteriore? Perché va standando il cantiere? Vediamo, vediamo che punto è. Vediamo che punto è. Se hanno finito la vasca, purtroppo l'hanno fatta, vediamo cosa succederà e cerchiamo di metterci tutte le cautele perché non si creino altri problemi. Se non l'hanno fatta perché sono ancora fermi, ragioniamo su cosa vale la pena di creare come danno. Un piccolo inciso perché non voglio rubare troppo tempo agli altri. Sul progetto Plinius, io non ho in mano i risultati. Per come sono stati presentati, secondo me era una cosa molto interessante. E secondo me è un peccato che sia stato abbandonato, perché ricreare il rapporto del lago con la città, che è stato massacrato e precluso dal cantiere che c'è adesso, vuol dire anche davvero recuperare la balneabilità del primo bacino. E se non ci hanno raccontato balle sugli esiti di quelle sperimentazioni, secondo me è assolutamente un peccato che si sia abbandonato ed è una cosa assolutamente da riprendere una volta che siano confermati i dati che ci avevano detto. Sì, io sono completamente d'accordo con quello che ha detto Mario rispetto al tema della rinegoziazione di quello che è il futuro di questo intervento. Io ribadisco, come ho detto varie volte, il Consiglio Comunale è inutile, cioè non serve. Tra l'altro io proprio pensando a questi giorni e alla vicenda di oggi, alla quantità di pioggia, non so se i dati che ho sentito dall'informazione siano realistici, siano veri o siano di fantasia, ma se una cosa del genere dovesse mai capitare a Como, fosse mai dovuta capitare, mettiamo tutto l'ipotetico della fantasia sperando che appunto le elezioni le vinciamo noi e le cose si fermino e si inizi un nuovo percorso, ma immaginate le paratie realizzate e alzate in un bel giorno come questo e con alle spalle di Como ovviamente un bacino imbrifero che ovviamente tutta la Valle del Cosio e quant'altro, immaginate una pioggia come quella con le vasche che si riempiono d'acqua e pompano a velocità costante di pompaggio acqua dall'altra parte mentre arriva l'onda di piena. Allora a questo punto invece che l'esondazione, come avrebbe potuto sperimentare l'inondazione? Allora tutto questo, anche Mario Lucini lo aveva sottolineato, come abbiamo sottolineato noi, se voi leggete i documenti vi dicono che gli studi, che tra l'altro risalgono al 95-96, sono stimati su frequenze di pioggia dell'ordine di 10 anni, cioè su massimi di frequenze di 10 anni. E noi stiamo andando verso evidenti cambiamenti climatici e tra l'altro gli eventi diventano sempre più intensi e più brevi, cosa che crea altri tipi di emergenze, altre dinamiche dal punto di vista proprio idrogeologico. Noi siamo davvero di fronte a un progetto che è stato pensato, adesso mi piace dirlo, ma con una serie di premesse assolutamente opinabili anche dal punto di vista scientifico. Tenete conto che la regolazione del lago di Como è dal 1946 regolata dall'intervento umano, dal sistema delle chiuse di Olginate, quindi non è affatto un evento casuale e questi anni di cantiere lo hanno dimostrato, ha piovuto dappertutto, è stata inondazione dappertutto, ma il lago in questi anni non si è mai affacciato in maniera importante sulla piazza perché c'era il cantiere. Allora significa che questo sistema, come dire, è stato provato. Tra l'altro un sistema neanche particolarmente raffinato, perché sul Lago Maggiore invece esistono sistemi ben più raffinati, con sistemi di calcolo e di previsione, con velocità di apertura delle chiuse. Non so se voi sapete che la velocità di apertura delle chiuse di Olginate prevede che si aumenti la velocità di deflusso di 3 metri cubi al secondo ogni 2 ore, il che significa che l'apertura è lentissima. Se tenete conto che il massimo di portata dell'aria in uscita sono oltre 600 metri cubi al secondo, aumentare di 3 metri cubi al secondo ogni 2 ore è una variazione lentissima. È chiaro che poi il lago si riempie e poi dobbiamo dircelo sempre con grande franchezza, tutta questa invenzione è legata al fatto che l'acqua si vende e che quindi c'è ovviamente questo tema che risale all'argomento precedente, che appunto l'acqua non è un bene sul quale magari andare a realizzare utili. Ma anch'io sono assolutamente d'accordo con una posizione assolutamente attenta e severa nei confronti di quelli che sono stati i principi che hanno portato alla decisione di intervento. che è un intervento che non è di fatto servito a mettere in sicurezza una zona, perché i problemi, come è già stato detto, non presentavano questa gravità. Viceversa, per come viene realizzato, può creare dei seri problemi di sicurezza nella nostra città. Alcuni sono stati già citati, in particolare in questo aspetto dei due torrenti che verrebbero bloccati nella loro possibilità d'ingresso nel lago. Altri problemi riguardano i paesi del lago, perché a questo punto alziamo il livello e tuteliamo la città di Como. Cosa succede nei paesi immediatamente a monte? Che cosa può succedere in un'ipotesi in cui c'è una tracimazione oltre le paratie, che in questo caso porterebbe sì ad una situazione molto pericolosa di emissione di acque? Quindi mi sembra che tutto questo sia stato fatto senza il necessario approfondimento, che è una cosa non semplice, quindi deve essere, che per essere condotta in maniera seria richiede senz'altro del tempo, e quindi nel frattempo non si può che bloccare questa opera e ripristinare, utilizzare le risorse disponibili per utilizzare. Aggiungo una cosa sola. Enzo mi viene un mandato. 5 anni, da maggio a maggio di 5 anni. Ripristinare? Sì, io penso di sì. Ma l'unica cosa che volevo aggiungere rispetto alle osservazioni che, ripeto, condivido, sono già state fatte, è queste. Visto che siamo d'accordo e dobbiamo dire, vediamo in che condizioni ci verrà consegnato l'opera, io credo che forse sia il caso di metterci d'accordo e di fare un'azione di opposizione che riguardi, che raccolga il consenso di tutta la cittadinanza adesso proprio, ma facendo appello all'indignazione della città, che è stata anche molto alta nei mesi scorsi, proprio per evitare di ritrovarci a maggio a ricevere nelle mani un mandato in cui le nostre scelte siano molto condizionate dalla prosecuzione di questa opera. Questa è una cosa che tutti assieme possiamo fare da subito. Mi chiedo anche a opera ultimata, no, ma anche se a opera ultimata, il sindaco Improzzi, il sindaco Comandetti, alzerebbero o non alzerebbero in caso di evento eccezionale? Guarda, la cosa che io so, avendo seguito, studiando, è che c'è un problema, vengono citate le dighe, la diga di Olginate, ma in realtà mi sembra di avere capito che c'è un ulteriore problema, e che è il ponte Azzone Visconti, che è a monte anche della diga, e che sarebbe questo, le arcate di questo ponte, che di fatto limitano. A questo punto si sostituisce il ponte, cosa probabilmente un po' costosa e più difficile da fare, ma credo che realizzare dei canali. No, assolutamente. Il mio riferimento era al livello di guardia. Bisogna agire sulla diga, ma forse prima della diga, se la strozzatura è a monte, si tratta di evitare questo imbuto del ponte. Come anche semplicemente con dei canali esterni che facciano deviare l'acqua in caso in cui si alzi troppo il livello del lago. Allora, io però voglio aggiungere un passaggio. Insomma, io parlando con un sindaco di qualche anno fa, questo mi diceva candidamente che il direttore del consorzio gli telefonava dicendo: guarda che domani o dopodomani ti faccio uscire l'acqua in piazza. Questo, non vi faccio il nome della persona, cioè sì, va bene. E questo era quello che succedeva negli anni 80-90. Nel senso che ovviamente veniva fatta comunque una mediazione, tra virgolette, tra il bisogno o l'impossibilità, perché il consorzio aveva tirato la corda fino all'ultimo. Perché tenete conto, io non so come sia andato il risarcimento dei danni, ma se andate a leggere il capitolato, non so come si chiama, l'incarico del... È previsto che i danni generati da esondazione del lago, dovuti a inadeguata, insufficiente intervento, diciamo, di anticipo della riduzione dell'abbassamento, sono a carico del consorzio. Allora bisogna cominciare a dire: qualora tu non abbia fatto tutto quello che era in tuo potere fare, quindi anticipare l'apertura, abbassare il livello del lago, aumentare la velocità di apertura, eccetera eccetera, e l'acqua è uscita in piazza, gli eventuali danni sono a carico tuo, non sono a carico della collettività o di chi per essa, sono a carico del consorzio. Chiarito questo primo aspetto, questo implica il fatto che il legislatore, chi ha dato questo incarico, perché la cosa è piuttosto antica, risale agli anni 40, chiariva da subito che si era di fronte a eventi niente affatto del tutto naturali, ma da governare, e il consorzio si assumeva la responsabilità del governo. Questa cosa succederebbe anche domani, con la differenza che la presenza delle paratie cambia la logica del decisore. Se io so di avere un margine di un metro, è chiaro che ragiono in un'altra maniera, per cui la risposta mai mi sembra una risposta da dare subito. Poi dopo, se venisse, come dire, il diluvio, vabbè, a questo punto potremmo anche ragionare, però una risposta deve essere data in maniera chiara, perché se non dico così il decisore decide di scommettere che l'acqua non è. Allora, in questo, diciamo, dal 93 ad oggi è uscito poco, qualche volta, solo dopo, sì, ma pochissimo, e perché non c'è stata una gestione particolarmente attenta, perché forse c'era anche l'interesse a dimostrare una certa utilità di quello che si stava facendo, comunque c'era l'interesse a tenere il lago alto. Nel 93 e nell'87 è uscito perché usciva. Perché c'è stata l'alluvione della Valtellina prima, e novembre del 93 ci sono state piogge prolungate, molto intense, lì non si può sicuramente imputare al consorzio dell'Adda il fatto che sia uscito. Beh, allora il discorso è rinegoziare la quota massima a cui può tenere il lago il consorzio. Dopodiché, adesso se esce, io ho la possibilità di tenere fuori il lago, adesso non ho capito perché non dovrei usarle. Non le uso per consentire al consorzio dell'Adda di stare 50 centimetri più alto di quello che dovrebbe. Dopodiché, adesso va bene masochismo, ma non capisco perché se il lago esce, io ho uno strumento per non farlo uscire, non lo devo usare. Allora, io non lo realizzo in modo tale da consentire un incremento degli stoccaggi di acqua a puro beneficio della regione e del consorzio dell'Adda, che ci fa, ricordiamoci, forse non tutti lo sanno, 11 milioni di euro all'anno. 11 milioni di euro all'anno rende il lago di Como, la regolazione del lago di Como. 11 milioni di euro. Quindi, e a Como non torna niente di questi soldi, se non qualcosa, il contributo per la ripopolazione, il ripopolamento delle alborelle, mi sembra, 30.000 euro all'anno. Solo un dato di curiosità, perché comunque è importante. Guardavo oggi e sono rimasto un po' scioccato dai dati delle piogge, rispetto a quanto diceva lui prima. Il pericolo è anche che di un cambiamento climatico enorme in questi ultimi 10 anni. Vi do solo un numero per rendervi conto. Con l'alluvione della Valtellina, in 3 giorni sono scesi nei punti dove ha piovuto di più 400 mm di pioggia. Nella provincia di La Spezia, la settimana scorsa, sono scesi 500 mm in 6 ore. Quelli là era l'alluvione della Valtellina, e non è che c'era, si era bagnati i piedi, però 400 mm in 3 giorni. Quindi anche tutto il discorso della regolazione e della tutela dei corsi d'acqua, tutti gli intubamenti che abbiamo, dovrà cambiare tutti i sistemi di verifica e di controllo, perché stanno succedendo eventi che sono molto diversi da quelli. Un'ora e 140 minuti. Sì, ma i ghiacciai della Valtellina si arretrano di 3 metri all'anno. E quindi? Che sono la vera scorta del bacino di Lago di Como da vendere. Adesso non li scioglie il consorzio dell'Adda, sono sicuro. No, il cambiamento del clima è questo: il surriscaldamento e l'eliminazione dei ghiacciai della Valtellina. Io ho visto formigoni col fondo. Era lui. Quindi non raccontiamo, cioè l'esondazione non avverrà mai se nessuno ci mangia sopra. Questo non lo condivido. Io lo sono 10 volte. Ma guarda che l'acqua usciva anche prima che ci fosse il consorzio dell'Adda. Adesso non esageriamo. Cioè, bisogna mantenere la mezza piazza. Scusate, io non esce più e non uscirà mai più se non viene venduta l'acqua a Lodi. Cioè, due battute. Intanto io non so sulla funzionalità del sistema, si chiamano paratoi, io francamente non è che ci giuri. Queste 600 lastre lunghe 3 metri, alte 1 metro e mezzo, anche dal punto di vista proprio della fattibilità pratica del montaggio, della gestione, della manutenzione, abbiamo forti dubbi, francamente. Però vorrei ritornare su un problema serio che io sottopongo a tutti gli amici. Questi sono problemi di estrema complessità, anche sulla questione del ruolo e della funzione della diga di Olcinate. Ne abbiamo sentita anche da persone insospettabili, e quindi non soltanto perché schierate, tesi anche contrapposte. Io direi che un po' è stato un po' del limite, ma per ragioni ovviamente ovvie e oggettive, che dovremmo noi attrezzarci, se no diventano poi opinioni soggettive che potrebbero essere anche legittimamente smentite. Secondo me su questo problema bisogna attrezzarsi. Quanto prima io facevo riferimento alla necessità di un esame competente della questione, proprio per evitare le opinioni soggettive assolutamente legittime, ma a mio parere con un margine di soggettività e di caratteristiche da opinioni che su questo tema naturalmente lo eviterei. Quindi quella proposta che facevo prima, che potrebbe essere anche una proposta condivisa, perché io non credo alla rinegoziazione di un contratto di questa spessore con una società in una situazione prefallimentare o quasi fallimentare, con tutte le problematiche annesse e connesse, laddove ci sono magistrati, creditori eccetera, quindi immagino le complessità di un'eventuale rinegoziazione del contratto che cambierebbe il termine dell'accordo. Già immagino. Per noi, da questo punto di vista io metto un forte punto interrogativo. Io secondo me il problema centrale è quello che dicevo prima, cioè dobbiamo esattamente capire dove si va a finire e in che modo ci si va, ma rapidamente. Ma noi questa possibilità concreta ci fidiamo di chi finora ha gestito la cosa, per cui aspettiamo la prossima notizia sul giornale o dichiarazione di Bruni, o vogliamo gestire in proprio e in modo competente la questione? Io direi di fare questa seconda scelta. C'è qualche domanda? Qualche... Volevo collegare. Prego. A... se vuole anche con il microfono. Sì. Oh, allora, la voce alta. Da dietro. Giustamente mi sembra di capire, qualcuno di voi è in consiglio comunale. Tre su quattro. Quindi abbiamo il vantaggio di sapere che cosa combinano questi signori riguardo al prossimo futuro. Perché aspettare di avere voi, uno di voi, un mandato e non agire prima? Fermiamoli, si stanno facendo dei danni. Perché dire vediamo cosa ci consegnano quando è troppo tardi, quando sarà troppo tardi? Agiamo, facciamo qualcosa, proponete qualcosa, muoviamo anche la cittadinanza, facciamo qualcosa. Magari due o tre interventi in sequenza, così riusciamo poi a condensare le risposte, magari un filo più veloce. Mi appello alla vostra bontà. Qualcun altro c'è? Prego, vuole... Okay. La voce è robusta. Sì. L'articolo 22 della Costituzione repubblicana parla del paesaggio come un bene degli italiani, e quindi questo deve essere un riferimento da mantenere nella prossima, io mi auguro, gestione di questa amministrazione. La seconda cosa, la seconda domanda, non si può ovviamente spaziare su tutto, ci vedremo alla costruzione del programma. Quel grafico è la fotografia della drammaticità di una situazione. Quel diagramma dice che Como è campione mondiale per intensità di traffico nel rapporto con il territorio eccetera, e porta tutte le drammaticità che abbiamo ascoltato, e cioè malattie, danni e via discorrendo, e i tempi di vita che si perdono nel traffico cittadino nostro. Allora, so benissimo che non ci sono soluzioni miracolistiche. Avevo già sentito nei vostri discorsi un primo aspetto che riguardava la cultura, passare attraverso le scuole, attraverso l'educazione dei cittadini, ma la seconda cosa, i provvedimenti, sono sperimentazioni già esistenti, non c'è da inventare niente, non soltanto i parcheggi, ma i parcheggi di corona con navette pubbliche però. Bisogna offrire al cittadino la possibilità di viaggiare, quantomeno gli vogliono anche i fasci orari dalle 7 alle 9 del mattino, eccetera. Ma poi tutte le altre forme, il carpooling, il car sharing, il mobility manager, il pedibus, le piste ciclabili, questo deve essere il progetto per modificare quella cosa che è una mostruosità, così come è una mostruosità le paratie che ci sono qui a Como, restituire il paesaggio ai cittadini comasi. C'è la favola e il microfono. No, ce lo farei. Okay. Allora, cioè, il problema di questa città è che è una città un po' particolare, dove le villaggi adesso si contano sono quelle. E noi abbiamo il problema della la penetrazione, la realtà è complessa, tutta la routine è difficile, è difficoltosa. Le macchine arrivano e poi stanno in giro a girare, provocando ulteriore inquinamento. Tutti noi che abbiamo girato la mattina dentro un parcheggio sono uno stress proprio quotidiano. L'idea è quella invece di evitare che il traffico entri in città, quindi fare in modo che le cose che creano traffico nella città, che sono gli uffici pubblici, gli uffici in generale, evitare quindi che tutta l'utenza che viene dalla provincia anche e dalla periferia della città, il centro della città, perché lì si trovano gli uffici, si trovano i punti di interesse, venga tenuto fuori. Allora quel famoso progetto, che chiaramente deve essere un progetto di prospettiva, di cui si parla sempre in amministrazione, lo propone quello della cittadella, della pubblica amministrazione, degli uffici in periferia, considerando che se abbiamo un'area grossa, corposa, che è quella dell'ex ospedale, che si trova non proprio in periferia, comunque alla periferia della città, di qui non so bene cosa si intende fare. Nessuno lo sa. Pensare, perché non pensare a farlo diventare un progetto di questa, speriamo nuova amministrazione, di fare di quello la cittadella della pubblica amministrazione? Un altro ancora così, poi magari allora, un secondo rispondo. Non ho capito, sinceramente, sarò stato distratto, che cosa se per voi è fattibile ridefinire il contratto? Primo. Secondo, con la Sacri. Secondo, io voglio capire se è fattibile di fronte a una giunta che ha sbagliato e ha compromesso il bilancio delle prossime giunte successive. Ventennale. Non so per quanto, se è fattibile una class action nei confronti di queste persone. Voglio capire da voi questa cosa. Vediamo di andare con ordine. No, tutti e quattro un po' di sintesi, tanto poi in questi mesi. Allora, partiamo da questo perché recupera il tema della Sakai. Non dimentichiamoci che però siamo tornati, come sospettavamo, a parlare di mobilità e di una serie di proposte. Inoltre la signora però all'inizio diceva: ma perché non li fermiamo subito? Io la traduco, la estendo, mi permetto. Bravo. Ma perché non l'avete fatto prima? No. Nel senso, immagino, una cosa del genere, chiaro che diventa, però. Quali sono gli strumenti che negli anni come opposizione avete adottato? Li avete adottati tutti oppure un po' di autocritica, di mea colpa? Arrivo Marcello, un attimo. Escluso le armi da fuoco. C'è anche Bruno Saladino, tra l'altro un altro consigliere comunale. L'opposizione ha fatto tutto quello che poteva fare oppure ha pagato una frammentazione oppure non ha pagato niente e, insomma, a un certo punto bisogna alzare le mani. Ecco, un po' tutto questo. Grazie. Allora, no, intanto per rispondere all'amico, dove non sono, lo vedo in fondo. Allora, noi due anni fa abbiamo presentato un esposto alla Procura regionale della Corte dei Conti e siamo stati i primi, che peraltro è stato firmato da tutta l'opposizione ed è stato firmato da 2200 cittadini, magari molti di voi l'hanno pure firmato. Questo esposto è stato il primo che è stato presentato, poi ha avuto un seguito perché se ne è occupato il dottor Pizzotti, che è la Procura della Repubblica di Como, il quale a sua volta poi ha mandato gli atti anche alla Corte dei Conti, per cui è in corso attualmente un'indagine sia penale da parte del Tribunale di Como, sia due indagini da parte della Corte, dalla Magistratura contabile a Milano. Quindi dal punto di noi siamo assolutamente allerti. Cioè al momento opportuno, e questo l'abbiamo sempre detto perché siamo intervenuti unanimemente su questo tema, noi interverremo perché i responsabili dei danni, che possiamo anche dire che ci sono danni di milioni di euro, perché naturalmente lo sbilancio rispetto alle previsioni attualmente si aggira sui 3, 4, 5 milioni, peraltro vi sono delle riserve da parte di Sakain riguardo anche ai lavori che si sono svolti in questi anni. Riserve significa, non è vero, tu mi hai promesso di darmi X, io ne voglio 5 milioni in più, quindi praticamente vi è questo. Sapendo le condizioni di Sakai, mi rispondo anche all'altra domanda, che sostanzialmente ha una fame di soldi pazzesca, siamo sicuri che le trattative saranno con un soggetto che non è più soltanto la SPA Sacaim, ma dietro Sacaim, dicevo prima, ci sono altri creditori, diventerà molto difficile, se non direi quasi impossibile, la possibilità che si possa andare a una sorta di reductium di quello che sono i diritti e i doveri. Quindi la possibilità di una cosa di più difficile di prima, quindi nulla è impossibile, sicuramente più difficile di prima. Questo per quanto riguarda, avete fatto tutto quello che c'è da fare. Io dico che l'opposizione naturalmente non è assolutamente perfetta, come tutte le cose in questo mondo non sono perfette, però allorquando sono avvenute delle cose che sono avvenute, poi su di cosa vorrei dire delle cose quando ci farà la domanda, perché anche quello è un tema scottante, sicuramente noi abbiamo reagito, abbiamo revocato, abbiamo sfiduciato due assessori, in primis Caradonna, che fra l'altro io dico lo vedo tutto tutti i giorni ancora in cantiere. Questo è veramente un fatto scandaloso su cui dobbiamo reagire, perché di fatto Scaradonna ancora lavora e dirige Viola, quindi sostanzialmente le cose continuano come prima. Quindi da questo punto di vista sicuramente noi, io direi sicuramente forse qualcosina in più si poteva anche fare, ma ritorniamo a, certo noi l'opposizione su quello che è avvenuto non ha alcuna responsabilità, perché a volte, io mi riferisco alla prima variante, il famoso muro, abbiamo scoperto che peraltro il muro fu eretto da Viola in assenza di qualsiasi documento che pure magari la commissione urbanistica avrebbe potuto vedere, ma se il documento non c'è, le autorizzazioni non ci sono, evidentemente non lo vedi, il muro viene eretto dalla sera alla mattina. E sapete cosa ha detto Viola? Qualcuno gli ha fatto la domanda in aula: come mai lei ingegnere ha eretto questo muro? Ma scusate, conoscendo Lucano, io lo posso dire, me lo posso permettere, date le origini quasi vicine. Lui dice: no, scusate, io in realtà il muro l'ho eretto perché il progetto l'ho pensato avendo il lago alle spalle, quindi guardavo davanti, quindi non mi sono posto il problema che il muro avrebbe impedito la vista del paesaggio. Non dimentichiamo anche gli altri spunti. Beh, gli spunti di Michele sono assolutamente, non meritano risposte, nel senso che sono già degli impegni. Michele Marciano è molto competente, esperto in questa materia, per cui non si può che convenire sulle indicazioni che ha dato in termini di impegni progettuali, perché sicuramente alcuni erano stati accennati già nei nostri interventi ed altri li ha aggiunti lui giustamente, e sicuramente sono impegni che devono essere inseriti negli aspetti programmatici. L'altra domanda era sulle paratie del Consiglio Comunale. Ma io dico che, allora, prima cosa, forse non tutti sanno che il progetto delle paratie non è stato approvato dal Consiglio Comunale, non è mai passato in Consiglio Comunale. Se si è discusso in Consiglio Comunale delle paratie è stato su iniziativa dei consiglieri di minoranza, che prima nel 2003 hanno presentato una mozione per portare il progetto in consiglio e per farlo discutere, mozione che è stata bocciata. Abbiamo pubblicato più volte l'elenco dei nomi di chi ha bocciato questa delibera, e poi due anni fa o adesso si sta sfilando dal progetto delle paratie. Dopodiché abbiamo riportato ciclicamente, con gli strumenti che sono consentiti ai consiglieri comunali, cioè dopo delibere di indirizzo o mozioni, l'argomento in discussione in consiglio senza che aver mai la possibilità di deliberare una scelta, perché non è previsto che sia votata una scelta sul progetto dal consiglio comunale. In consiglio comunale vige quella strana regola che si chiama democrazia, che alla fine determina che qualcuno alzi la mano e chi è in numero maggiore determina le scelte. Siccome, come diceva Bruno, nella democrazia e anche in consiglio comunale, pur nelle nefandezze che stanno contraddistinguendo questo consiglio comunale, non è previsto l'uso delle armi, altri strumenti per dal consiglio comunale intervenire in modo diverso non ce n'erano. Se si dice si possono fare mobilitazioni di tutti quanti, come erano iniziate in un certo momento quando è uscito il muro, certamente sono cose che è possibile fare da parte di tutti i cittadini, e in queste iniziative i consiglieri comunali valgono quanto gli altri cittadini e gli altri cittadini valgono quanto i consiglieri comunali, per cui se si decide di intraprendere azioni al di fuori del consiglio si decidono insieme, si ragiona e si valuta. Dentro il consiglio sul discorso paratie io sono convinto che non si potesse fare nulla di diverso da quello che è stato fatto. Allora, sulla questione della possibilità di contrattare o ricontrattare con la Sakai, la certezza non esiste, però ovviamente l'impegno a farlo c'è. È chiaro che uno poi cozzerà se dovrà cozzare, e poi sarà un problema eventualmente di costi che la città dovrà decidere se affrontare o meno. Sul problema del danno che cui tu accennavi, le risorse comunali, se non ho i dati precisi a memoria, però dei 16 milioni spesi fino adesso, che diventeranno circa 20, si è partiti con circa 8 milioni di euro, 16 miliardi di lire, quindi circa 8 milioni di euro per questo intervento, sono già raddoppiati e ovviamente diventeranno due volte e mezzo, perché anche questo va a dire avanzano dei soldi. In realtà ne abbiamo spesi molto più del doppio di quelli che erano previsti, per cui un'operazione da quel punto di vista è un rubinetto aperto. I soldi che sono stati utilizzati dai cittadini comaschi, gli altri sono dei cittadini comaschi e degli altri, siamo quelli solo dei comaschi, sono stati utilizzati sul bilancio 2003, vado a memoria, mi sembra intorno a 1 milione di euro. Erano il frutto di quella vendita straordinaria di ACSM, la privatizzazione di ACSM, 99 miliardi di lire, festa, lì si poteva fare tutto, e allora buttiamo un po' di soldi nelle paratie. A parte quello, gli altri sono tutti soldi che vengono dallo Stato e dalla Regione, sono finanziamenti che ci vengono da fuori, quindi in questo senso noi potremmo rivendicare come cittadini comaschi solamente quella quota. Sulla questione che si osservava prima, io ricordo che questa cosa nasce nel 96, Fa Martino e io eravamo in Consiglio Comunale allora, e come Paco noi organizzammo un'intera settimana per cercare di far capire quello che stava succedendo. La cosa che mi ha sconcertato nel dibattito delle tre sedute precedenti del Consiglio Comunale è che almeno metà, ma sono generoso, secondo me di più, dei consiglieri comunali non aveva idea in quel momento del progetto, oggi non aveva idea del progetto. Il progetto era chiaro da allora, queste famose strutture fisse sulle quali si alzavano le paratie a vento, era il disegno del 96, si è avuto nel dibattito del Consiglio Comunale proprio recente una ripartizione quasi calcistica, da tipo calcistico, io sono per il vecchio progetto solo perché adesso questa nuova vicenda la stanno gestendo altri. Non è così, il progetto è sbagliato concettualmente, è l'idea che non sta in piedi, è l'idea che nasce per fare un'operazione ingegneristica su un sistema complesso come il lago, che deve no, e può essere governato con altri strumenti. Poi il tema famoso della democrazia. Allora, chiariamoci bene, le opposizioni fanno fatica a stare insieme. Quando successe, qui posso dare una data, primo ottobre 2009, giovedì sera, Consiglio Comunale, io con tutte le persone di Paco andiamo a una riunione delle minoranze portando una proposta di delibera, di sfiducia al sindaco Bruni sul tema delle paratie. Non firma nessuno. Tre giorni dopo si comincia a raccontare la favola che ci sono 21 consiglieri comunali che si vogliono dimettere e qualcuno invece non lo vuole fare. Il documento di cui sto parlando, sfiducia al sindaco Bruni, che nessuno vuole sfidare sul consiglio comunale, esiste. Se qualcuno è in grado di farvi vedere un documento sul quale ci sono 16 o 17 firme e soprattutto ci sono firme dei consiglieri di opposizione pronti a dimettersi, fatemelo vedere, io non l'ho mai visto. Ma io voglio solo leggermente differenziarmi da alcune considerazioni ultime, per il fatto che credo che non sia una consolazione il fatto che i soldi che sono stati spesi male siano solo in parte del comune, essendo io una cittadina che paga le tasse che vanno allo Stato e che vanno alla Regione. Quindi credo che l'indignazione per queste spese assurde ci debba toccare in pieno, indipendentemente dal fatto di chi ce li ha messi e per quali motivi ce li ha messi, per salvare la faccia di chi. Non entro assolutamente, credo che sia inutile in questo momento andare a ridiscutere se si poteva fare diversamente o che altro. Preferisco invece ragionare proprio su quello che può essere fatto adesso. E ripeto, poiché mi sembra che siamo tutti d'accordo che le operazioni che vengono, cioè che c'è una situazione pericolosa per la città dal proseguimento di questi interventi in assenza di una serie di approfondimenti tecnici seri, ed è vero, ci vorrà una commissione di studio di qualità che sciolga questi dubbi. Io credo che questa operazione debba essere fermata e non possiamo correre il rischio di ereditarla in una situazione in cui i lavori sono andati oltre, per cui saremo ancora più in difficoltà eventualmente a fare marcia indietro. A questo punto la nostra assoluta condivisione di una linea di questo genere ci deve portare ad uscire con forza e a chiedere il sostegno il più ampio possibile alla cittadinanza, perché è vero, il Consiglio Comunale può far poco se, se i consiglieri sono le persone messe lì dalla cittadinanza a cui viene delegato tutto quanto. I consiglieri hanno la forza se dietro di loro si muovono i cittadini, e i consiglieri da questo punto di vista, l'amministrazione deve essere proprio interessata a promuovere una forma di democrazia partecipativa che sia che si sia l'opposizione sia che si sia, come mi auguro, al governo della città, deve essere l'elemento forte del nostro programma per la futura amministrazione della città. C'è rimasta una decina di minuti, per cui ottimizziamole, un paio di domande. Se c'è qualche, esatto, se c'è qualche intervento, un consiglio per la prossima volta: mettete 5 microfoni, non si dialoga nemmeno. Vabbè, però prego, ci mancherà. A me sembra che un po' sono d'accordo con l'intervento di quel signore lì, quindi non lo ripeto. Un po' per l'orografia della nostra città, abbiamo anche una mentalità che è tesa a guardare la città come la convale. Secondo me è sbagliatissimo. Ad esempio, anche quest'idea di mettere, adesso magari dico una cosa che è un po' incazzante, però di mettere tutti i parcheggi all'esterno, ma ragazzi, ma l'esterno non è la pattumiera della convalle. Cioè, la dignità della periferia è quella che si perde anche facendo certe operazioni. Quindi è molto importante che in questa città, proprio perché è costruita fisicamente in un certo modo, ci sia la possibilità invece di sviluppare, voi che dovete presentarvi come sindaci, sviluppare proprio i progetti di qualità in periferia, cosa che invece con questa giunta, diciamo, del centrodestra non è assolutamente avvenuto. Cioè, noi abbiamo fatto ad esempio dei convegni sul problema di mettere una serie di servizi attrattori di traffico in alcune zone di questa città, ad esempio guardate, passate sulla Scalabrini, vedete Rasa eccetera, quelli che era il posto ideale, a parte che non bisogna mai creare delle monofunzioni, per cui bisogna sviluppare la città in modo armonico, è questo che manca a questa città. Cioè, questa città è gestita dal punto di vista urbanistico male. Non a caso qualcuno di voi ha detto che il parcheggio dell'ex ospedale è vuoto, ma è ovvio che sia vuoto, è giusto che sia vuoto, perché cioè, dal punto di vista viabilistico non è il problema della quantità, è il problema della qualità della distribuzione delle funzioni sul territorio. Allora, il problema vero è il piano regolatore, o PGT come lo chiamano adesso, è questo l'unico vero problema di questa città, perché è difficile da gestire questa città da questo punto di vista. Allora, è ovvio che c'è il parcheggio è vuoto perché non c'è la funzione e quindi si svuota della opportunità di, poi dopodiché lo possiamo riutilizzare in mille modi, ma gli spazi vuoti di questa città sono infiniti. Cioè, voi pensate solo alle caserme che adesso il Berlusca vuole vendere. Cioè, pensate allo spazio, voi passate davanti alla caserma, fate un giro a piedi o in bicicletta intorno alla caserma e vi rendete conto che quello è un brano di questa città che non è mai stato pensato, mai stato progettato. È importante questa cosa qua, è importante secondo me individuare proprio gli elementi di forza che non sono nella convalle basta, ma che sono soprattutto nella periferia. Guardate che la prossima amministrazione comunale non avrà neanche le circoscrizioni, che secondo me possono anche essere abolite, però voi dovete dire alla popolazione che cosa volete fare rispetto all'ascolto che bisogna fare della città, perché la cosa più importante è questa: in questa città manca la partecipazione. A chi dice che loro non hanno fatto abbastanza? Io dico che noi non abbiamo fatto abbastanza, perché in alcune città i sindaci sono stati buttati giù dalla loro sedia perché avevano fatto delle cazzate inenarrabili. E questa città è stata costruita così da noi, perché abbiamo voluto, magari noi non proprio, ma perché abbiamo voluto quei personaggi. L'opposizione tutto sommato ha fatto il suo lavoro, poverini. Io mi sono seduto in consiglio comunale, finisco che sono andato anche oltre, ma vi posso garantire che rispetto alla prima repubblica i poteri dell'opposizione sono molto vicini allo zero. Noi nella prima repubblica riuscivamo a bloccare tutto quando volevamo bloccare, nella seconda repubblica non si può più fare quasi nulla, per giunta per una legge fatta da uno di sinistra. Quindi quelli di sinistra che sono seduti qua potrebbero dire che pirla che siamo. Giusto? Grazie. C'è qualcun altro rapidamente? Uno e poi due. Niente, abbiamo parlato dell'inquinamento, l'inquinamento del lago, le ventole, che non è una situazione perché vanno a disperdere di fatto la concentrazione dell'inquinamento in tutto il lago, però non lo c'è sotto, no? Comunque disperdono. No, il discorso era rimescolamento. Sì, infatti, ma però si inquina ugualmente, non andiamo alla radice che è non far arrivare l'inquinamento. Abbiamo il problema delle fognature che hanno ancora degli scarichi abusivi industriali, anziché spendere in questo, forse sarebbe meglio spendere e risolvere dopo 20 anni quali sono questi scarichi abusivi, che 20 anni sono sempre gli stessi e non abbiamo ancora trovato. Dice le macchie rosse ogni tanto appaiono dal corpo. Sono sempre quelle, da quando io sono 54 anni, sono sempre state. Cioè, non lo so, non abbiamo ancora scoperto chi le fa. Interlizza un fiume Chinco e non si sa ancora dove arriva. E fa questa è gestione dell'acqua. Il problema è questo: l'acqua che entra nelle case che beviamo, la depurazione e la fognatura. Quindi è una cosa che ci riguarda, è importantissima. Il referendum non ha risolto la questione, noi dobbiamo ancora andare avanti, sarà difficile, è un percorso lungo e complesso, perché sì, è vero, si è detto in house questa parola strana, come dire gestione diretta da parte dei comuni, però è un percorso veramente difficile, lungo, non è detto che vada in porto, quindi quello che si chiede è ci sarà questo impegno, perché il comune di Como sarà, è uno dei tanti comuni, ma è il comune principale, quindi ha un suo peso, anche se è un voto, è un comune. Ma ci sarà questo impegno non solo per arrivare a questo, ma anche perché si parlava di partecipazione, di trasparenza, perché è previsto un ente che invece lavora chiuso, l'ufficio d'ambito, un consiglio di amministrazione, lavoreranno loro. Ci sarà l'impegno da parte di chi sarà nominato, che invece di cercare di far sì che questo processo sia pubblico, ci sia la partecipazione delle associazioni, dei consumatori, dei cittadini, non solo del Comitato dell'Acqua, perché questa è una cosa che riguarda tutto, che ci siano dei momenti di condivisione, di accettazione di proposte, di discussione, perché è molto importante quello di cui parliamo, non può essere trattato l'acqua, appunto Lauro Bruno, stiamo vedendo le paratie, tutto collegato, le capitazioni sul lago, sull'alto lago, quindi questo utilizzo proprio come senza tener conto poi di tutto quello che gira intorno, quindi anche le paratie, senza la Commissione Valtellina aveva detto di non farle, e di utilizzare, e poi abbiamo i disastri idrogeologici di svuotamento e tutto in giro per il lago, e forse anziché investire qua, investivamo lì, era meglio, no? Quindi ecco, quello che io chiedo, se c'è questo impegno a cercare di avere un passaggio quindi pubblico, e arrivare non solo pubblico come gestione, ma proprio come partecipazione e condivisione, dare la possibilità ai cittadini di essere partecipi. Grazie. Brevissimo, cementificazione, c'è un impegno, una disponibilità a ragionare sulla non usare più il territorio, ma con una linea programmatica decisa. Un PGT disegnato e scritto come dire comando. Allora, un giro rapido di risposte, perché così riusciamo a farne magari un altro. Certo, lo lasciamo, va bene. Avendo la fortuna di rispondere per prima, mi appello senz'altro alla domanda che è più vicina alla mia sensibilità, alle mie idee, che sono questo. Quindi senz'altro sì, il rapporto costante con i cittadini, con le associazioni, sia in termini di trasparenza di una gestione della città che sia abituata a dar conto di quelli che sono i problemi, di quelli che sono gli interventi e di consentire alla cittadinanza di verificare il raggiungimento o meno degli obiettivi che si sono proposti, raggiungimento che può anche saltare per ragioni comprensibili, condivisibili, ma che deve essere spiegato. Ma aggiungo una cosa in più, cioè secondo me questa apertura, questo coinvolgimento, questo esercizio di una democrazia partecipativa non ha solo l'obiettivo di informare, non è solo un esercizio di trasparenza, è anche un esercizio passatemi il termine, utilitaristico, di utilizzo delle conoscenze e delle competenze che ci sono, che sono veramente profonde. Lo abbiamo visto stamattina anche nella necessaria sintesi con cui sono stati rappresentati i problemi. Ecco, io credo che ci sia proprio un'intelligenza collettiva che debba essere ascoltata molto di più. Una seconda cosa, sono anche d'accordo sull'elemento appunto dell'intervento sul lago con le pale. Se anche una soluzione di questo genere che disperda, che movimenti di più, io non sono un'esperta, non sono un tecnico, però se contemporaneamente non agiamo sul controllo, sulla verifica di quelli che sono gli inquinanti che entrano, mi dà l'impressione che rischi di essere quello che distribuisce meglio il fertilizzante su tutta la superficie, quindi devono essere dei provvedimenti gestiti assolutamente in sintonia. Sì, ovviamente sottoscrivo il tema della partecipazione, che tra l'altro dovrà essere, come dicevo, anche Cuba ricostruito, alcuni strumenti per scelte, diciamo, di ordine superiore spariranno e dovremo costruire degli altri strumenti. Alcuni strumenti ci sono già, nel senso che sono ovviamente l'associazione, i movimenti dei cittadini, però credo che bisogna estendere questo strumento, altrimenti come dire, la partecipazione è limitata ai pochissimi che per qualche motivo e per qualche elemento magari culturale o sociale hanno particolare attenzione a quel problema, mentre sono d'accordo, lo strumento partecipativo credo che sia la domanda che vediamo in tutte le manifestazioni che stanno accadendo in giro per il mondo. Molto difficile, perché adesso gli strumenti a disposizione sono potentissimi, però la capacità di sintesi secondo me avviene soltanto nell'incontro reale delle persone. Cioè, la realtà virtuale ha un senso, il mondo virtuale ha un senso, ma probabilmente soprattutto per mantenere relazioni che già ci sono, non per costruire lì ex novo delle relazioni. Quindi questi strumenti dell'incontro delle persone vanno creati. Sul tema del consumo del territorio, l'impegno da parte nostra, per me, da parte mia, è chiaro: noi sappiamo che il territorio è, come dire, lo strumento con il quale le amministrazioni acquisiscono risorse. E in questo senso è stato favorito il consumo del territorio. L'alternativa è solo la sua trasformazione, però una trasformazione che deve essere vigilata. Quello che è successo in questi anni è che la città ha perso quasi tutte le aree che erano destinate al lavoro e tutto è diventato residenza. E credo che bisogna porsi la domanda se ha senso continuare a permettere la perdita di luoghi destinati al lavoro. Certo, non il lavoro del secolo scorso, ma un lavoro ovviamente che va rimmaginato e ripensato nelle prospettive di oggi. Io ovviamente con il mio movimento abbiamo sempre osservato il grande silenzio del mondo imprenditoriale rispetto a questo saccheggio, anzi in qualche modo complice, perché erano gli stessi imprenditori che hanno fatto la scelta di cancellare questo. E poi il tema delle periferie, certo, io sono d'accordo, lo dicevo anche prima rispetto alla mobilità. Non bisogna creare un luogo, un recinto nel quale tutti stanno bene, attorno tutte le schifezze che sono la condensazione del traffico, gli accumuli. La gestione del territorio però, appunto nelle periferie ci sono anche lì dei grandi spazi che potrebbero essere gestiti in maniera intelligente, e qui il tema urbanistico, è stato detto, non lo svolgiamo stasera, lo svolgeremo un'altra volta, è certamente l'elemento chiave per affrontare in maniera indiretta una serie di problemi. Sì, vabbè, ovviamente sul discorso partecipazione rischio di ripetere concetti che sono già stati espressi. Credo che davvero si debbano anche pensare strumenti nuovi, alternativi a quelli che sono un po' morti per morte naturale, come le circoscrizioni, perché devastate dalle progressive modifiche che sono state introdotte dal maggioritario in poi e adesso eliminate definitivamente dalle normative. Oltre che un impegno all'ascolto, al coinvolgimento, bisogna anche ragionare insieme per individuare degli strumenti utili davvero a far partecipare e a coinvolgere le persone. Questo vale su tutto, non solo sul tema dell'acqua, che ovviamente è un tema importante. Lo sviluppo delle modalità di gestione è ancora, mi sembra, molto molto indefinito, sarà un percorso credo molto complesso, quindi si tratterà di seguire bene e capire quali saranno i percorsi più corretti e più garantisti in termini di tutela della pubblicità di questo bene prezioso. È evidente che il discorso fognature è determinante, e se vuoi anche il miglioramento della depurazione con la separazione delle acque sul primo bacino. Non ho conoscenza compiuta dei risultati, però il concetto su cui operava il discorso dei ventoloni non mi sembrava stupido. Siccome c'è il discorso della progressiva difficoltà di ossigenazione dell'acqua, perché c'è una stratificazione termica molto marcata nel nostro bacino, il rimescolamento degli strati consentiva un'ossigenazione maggiore, quindi una degradazione degli agenti inquinanti che, se come dicevano, funzionava in modo relativamente interessante, poteva aver senso continuare ad operare, fatto salvo il discorso delle fognature. Sul discorso dell'urbanistica è vero che ne parliamo martedì, avevo dimenticato il signore che forse è andato via, tra l'altro, sul discorso dell'area ex Sant'Anna. In realtà una quota di trasferimento di servizi pubblici è prevista in termini essenzialmente di servizi sanitari. Ci sono ovviamente anche altre aree, non ultima per una quota parte sicuramente anche la Ticosa, che può essere destinata alla localizzazione di servizi di pubblica utilità da estrarre da luoghi più difficilmente accessibili. Ovviamente d'accordissimo con Fa Martino sul discorso delle periferie, il senso non era quello di colonizzare ulteriormente con strutture degradanti. Di fatto gli spazi per i posteggi periferici sono già quasi tutti esistenti e individuati, quindi il discorso dell'evitare consumo di territorio per quanto riguarda il consumo stretto parte proprio dalle periferie, che sono state quelle più penalizzate in termini di consumo concreto di terreno libero, risorsa finita e non infinita che non si recupera più. Poi su come sia stato recuperati i pieni svuotati nelle zone della città, siamo tutti d'accordo che non era questa la strada e non può essere più questa la strada, anche perché non solo ci deve essere un'alternativa alla residenza. No, ne parliamo martedì. Io però sei veloce e sono d'accordo sull'intervento di Fammartino. L'unica cosa che non condivido riguarda, ma questo è un discorso che faremo un'altra volta, la presunta assenza di competenze del Consiglio in materia di indirizzo e di controllo. Io ritengo l'esatto contrario, cioè a dire che si può avere sicuramente un ruolo interessante. Riguardo al consumo del territorio, è stato già tutto consumato, non c'è altro da consumare, si tratta di recuperare e riqualificare. Riguardo alla partecipazione, è vero, le circoscrizioni non ci saranno, ma io ritengo che deve essere un problema centrale, ma sin da ora, senza demandarlo alla futura amministrazione, se no altrimenti non lo realizziamo, di avviare sin da ora una riflessione, anche se vogliamo una proposta di cosa noi vogliamo fare al posto delle estinte circoscrizioni. C'è già un'elaborazione, cioè a dire, è assolutamente possibile, non in numero come erano prima, ma ridotte e razionalizzate, reintrodurre le circoscrizioni in modo elettivo, riconoscendo alle stesse delle competenze. Noi le possiamo benissimo elaborare sin da ora, in modo che quando si partirà con la nuova amministrazione, sperando diretta da noi, ovviamente ce le troviamo pure costituite. Grazie. Ultimissimo intervento, poi devo chiudere davvero, però. Due. Io volevo ritornare un attimo al tema ambientale di cui abbiamo parlato all'inizio. Allora, volevo ritornare un attimo riprendendo il tema ambientale di cui si è parlato all'inizio della presentazione, eccetera. Mi piacerebbe che ci fosse da parte vostra un impegno, perché il tema ambientale è vero che va, è vero che è un problema di sistema, ma se noi continuiamo ad allargare la visione non iniziamo a fare niente, e spesso è quello che succede sui problemi ambientali: si allarga talmente tanto la visione, e è vero che è una cosa complessa, che è multifattoriale eccetera, però allarghiamo così tanto che stiamo nell'immobilità totale. Allora, l'impegno che io richiedo su questi temi ambientali, che il messaggio si voleva anche dare con la presentazione, innanzitutto avere una progettualità su cose magari piccole, a basso costo ma immediate. Sembra che il sindaco di Milano già da quest'inverno farà una disposizione per cui chiederà la chiusura delle porte dei negozi. Non risolverà il problema ambientale, ma contribuisce, e così altre cose si possono fare a livello di gestione della città, quindi amministrazione locale, sindaco, affinché subito si faccia qualche cosa che non risolverà il problema, ma intanto è un inizio, intanto apre una strada di educazione e di sensibilizzazione e inizia a fare una piccola parte. Questa è la prima richiesta: progettualità a basso costo, però subito. e la seconda è il controllo, perché abbiamo visto che delle leggi ci sono, sono bellissime le leggi sull'ambiente, si tratta di leggerle, siamo d'accordo tutti, peccato che queste leggi sono sistematicamente disattese, non esiste un controllo, è il controllo che fa sì che qualche cosa anche piccolo si possa sistemare, e questo vale per tutti gli elementi che abbiamo visto, aria, acqua, territorio e anche inquinamento elettromagnetico, perché la delibera proposta da Paco che è passata in Consiglio Comunale a settembre è importante, è sulla strada, ha dei valori più alti rispetto a quanto già l'Unione Europea inizia a prescrivere, a diciamo dare come linea guida, però verrà applicata o verrà ancora disattesa? Resta lettera morta. Quante belle cose ci sono su questi temi e restano poi lettera morta. Quindi progettualità subito a basso costo e controllo. Sulle questioni ambientali che hanno una grossa risonanza poi anche economica, non sono gli sfizi di un intellettuale che vuole fare cose di fantasia, ci vuole progettualità rapida, magari a basso costo, e controllo, soprattutto controllo. Grazie. Grazie. L'ultimo intervento poi chiudo perché ho... fanno dei brutti gesti. Abbiamo cominciato ormai 16-17 anni fa con la città possibile a parlare di partecipazione. L'articolo 1 della città possibile dice ecologia urbana e cittadinanza attiva. Allora sembrava di essere dei pionieri e la partecipazione l'abbiamo attirata dal basso, partendo con i bambini e le scuole sugli spazi loro, piccoli spazi, cortili delle scuole, spazi verdi. Con loro ha funzionato egregiamente, siamo riusciti a realizzare processi partecipati veri. Crescendo nelle esperienze siamo passati a cose più istituzionali come Agenda 21. Agenda 21 a Como sappiamo che è stato un flop, anche se era uno strumento che nasceva dal protocollo di Kyoto in modo intelligente, consentiva davvero anche a normali cittadini o comunque ad associazioni non particolarmente competenti dal punto di vista tecnico di dire la loro. Sappiamo come è andata a finire, nel senso che non c'era una reale volontà di portarla avanti e le schede di Agenda 21 giacciono, le azioni che erano 70-80, non ricordo, giacciono nel cassetto del comune. Una grandissima dispendio di energie personali di tante persone buttato al vento. Passiamo alle nuove norme, alle nuove potenzialità della partecipazione, quelle della legge urbanistica. Le proposte sul PGT, noi, associazione con tante competenze tecniche, siamo riusciti a fare un dossier che si chiama Una città da fiaba con tre proposte sul verde, sul parco del Cose, sulla ciclabilità e sui lavatoi di Como, ovvero sul tema dell'acqua trattata attraverso i lavatoi. Noi che abbiamo dentro architetti, agronomi, avvocati, eccetera. Un semplice cittadino oggi non riesce a fare queste cose. Oggi anche noi siamo chiamati a fare attraverso la procedura delle VAS a partecipare in teoria a tutti i piani attuativi che stanno cementificando il nostro territorio, ma con le nostre, ahimè, esigue forze, nonostante il nome, non ce la facciamo più. Riceviamo due raccomandate al giorno, il giorno tale ci sarà la VAS per il sportivo tra dei tali. Non ce la facciamo. Allora bisogna trovare nuovi modi di partecipazione, nuove modalità che forse sono quelle che partono dal basso, dagli spazi sotto casa. Velocissimo, dico due cose che mi sono rimaste dal dibattito sui vari temi. Sulle paradiso ho sempre detto una cosa che sembra romantica e fuori dal mondo, ma concordo con quasi tutto quello che è stato detto, ma la poesia del lago in piazza non la cita più nessuno. Se ci pensiamo bene, una nevicata è la rivoluzione in città, cioè una nevicata ci fa contenti tutti, anche quelli che provano disagio che devono andare a lavorare, perché è una rivoluzione rispetto ai nostri costumi, ai nostri modi di vivere frenetici. La piazza lo stesso. E sfido chiunque a vedere i danni del Bar Monti piuttosto che del circolo Vera Como, di cui ero socio, che con le loro assicurazioni ogni volta si rifacevano la sede. Esatto. Bella, non c'è problema. Poesia davvero della piazza, lasciamolo esondare perché la natura deve fare il suo corso. Ovviamente ci sono i cambiamenti climatici, se esonda troppo può fare danni gravi. Ultimo punto sulla questione di mobilità, che è il tema che abbiamo trattato e ci sta particolarmente a cuore. il discorso di fondo che c'era peraltro, il programma di Botta, il programma di Bruni, riduzione del numero di autoveicoli privati circolanti in città. A dire il fare c'è di mezzo il mare, ovvero nessuno ha dato corso effettivamente a questa cosa. Sulla ciclabilità men che meno, c'è una proposta che giace anche lì latente nei cassetti, neanche discussa neanche considerata. Obiettivo primo, riduzione delle auto private, del modo di usare una macchina. La ragione Guido Viale quando dice morte dell'automobile, per come lo usiamo oggi l'auto sta morendo, è inutile continuare a rincorrere la domanda. Ho sentito dei sindaci deliranti, un sindaco di un comune con termini a comune che dice adesso dobbiamo allargare i parcheggi, farli 3 metri per 6 perché ci sono i SUV. Continuiamo a rispondere in modo demenziale a una domanda crescente, perché le case automobilistiche fanno i SUV che costano sempre meno, sono sempre meno secondari di un'altra cosa. Anche Marchionne si mette a fare i SUV e noi stupidi continuiamo a rispondere a questa domanda allargando le strade, creando il discorso dell'inquinamento per quello della salute. E ultimo, ma non è più meno importante, il discorso di incidentalità che viene citato poco ancora, è in riduzione perché i soccorsi arrivano prima, però ricordiamoci che l'incidentalità è del 75% sulle strade urbane e da questo punto di vista ancora come non si fa quasi niente. Quel poco che è stato fatto in tema di moderazione del traffico l'ha fatto il mio amico Piero Lorini, ma come politica seria, quella che come città possibile, non noi, gli amici di Torino, che hanno una visione zero, prendendo lo spunto dagli svedesi o dagli svizzeri, ovvero ridurre a zero l'incidentalità con una politica complessiva, andare verso lo zero, come fanno per il trasporto aereo e il trasporto ferroviario, perché la strage sulle strade ce l'abbiamo sotto gli occhi tutti. Grazie. Alla fine avremmo dovuto parlare certamente di Ticosa e certamente di Comodepur. Demando e rimando ad altri che verranno poi, anche se magari non sono i territori esatti, così come non è il contenitore esatto per alcune domande politiche che spero verranno fatte in futuro. Vi risparmio invece una domanda scema da chi fa il mio mestiere: no, spiegate perché dovrebbero votare voi, credo che l'idea se la siano fatta. Per cui vi ringrazio. Buona serata.